Allora, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. È il primo giovedì del mese di agosto e è la prima volta che Agostino è qui a Blu Radio Venzo per questo mese. Buonasera ad Agostino Spolaore e buonasera come sempre da chi? Da Maurizio Calzavara, buonasera. Sì, qualche volta mi chiamo ancora così. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ciao Maurizio, ben ritrovato anche a te. Ovviamente questa è Blu Radio Veneto, l'emittente che ormai conoscete tutti perché si dedica principalmente al live di sera, quindi anche il giovedì, e anche questa sera immancabilmente c'è questo live. Un live particolare prima di tutto perché ci sono due carissimi amici, ma poi perché sentirete anche la qualità della musica italiana, come dico sempre, che a volte nel sottobosco la si scopre e la si propone in maniera veramente molto molto ben volentieri. Prima però di presentare i nostri ospiti, come di consueto, i nostri dati tecnici, tra i quali il numero telefonico con il studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms vi ricordo il 346 23 20 033. Le nostre frequenze sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione di frequenza, e poi ancora il nostro sito dove potete ascoltarci anche in streaming, vi ricordo è www.bluradioveneto.it. in alto sulla sinistra della home page, cliccando ascolta la radio, ci potete ascoltare 24 ore su 24, assolutamente e tassativamente oserei dire in diretta. E poi ancora le nostre pagine su Facebook, ma ci trovate anche su Twitter, insomma siamo un po' ovunque, siamo come il prezzemolo, insomma sempre in mezzo, sempre dappertutto, vero Maurizio? Siamo dappertutto e ci siamo sempre. E siamo in tutto il mondo. Esattamente. Ho scoperto che abbiamo ascolti anche dal Venezuela e non solo, ma anche da altri paesi, ma questo ci fa molto ma molto piacere. Va bene, allora a questo punto presentiamo i nostri ospiti perché è giunto il momento di presentare un disco molto lungo, molto grande, molto bello, e si intitola Spinning Jenny, e l'autore, l'artista, si chiama Sergio Limbo. Ciao Sergio. Ciao, buonasera a tutti. E ben ritrovato anche te. Grazie, grazie. Ovviamente non poteva mancare un mio carissimo amico, ma abbiamo consumato il telefono a forza di sentirci, ed è Alessandro Maiani. Ciao Ale. Ciao, buonasera a tutti. Ben ritrovato anche a te. Grazie. Benissimo, caro Sergio Limbo, io ho letto la tua biografia, è molto scherzosa, molto ironica. A me è piaciuta questa frase, Bach 1721. Bach compone i 6 concerti dei Brandeburghesi. Fra l'altro ricordiamo che i Nice di Keith Emerson ripresero qualcosa dei concerti brandeburghesi un po' di anni fa. E poi nel 74 sei arrivato anche a te. Ma sì, diciamo che un po' di anni dopo. Volevo fare un po' di storia di quello che c'è stato prima. Ero indeciso se mettere nel 1969 la scoperta della Luna, l'allunaggio, ma ho pensato che tutto sommato... Hai pensato a Bach, così. Bach è il genio del musicale di quel periodo della fine del Settecento. Dopo vengo io. Dopo vinci, assolutamente. Modestamente. Modestamente. Però è molto interessante, ironico, perché questa è una biografia fatta da Sergio Limbo, nel suo Facebook, molto ironica e divertente, secondo me divertente, perché quando nel 1990 arrivi al Conservatorio di Bologna, cosa succede al Conservatorio di Bologna? Un'esperienza indimenticabile, diciamo. Infatti io... Alessandro sta ridendo. Sì, ci sono andato anch'io. Sei andato anche te. Ho avuto più o meno la stessa esperienza. Sa già com'è andata a finire. Abbiamo suonato tutti e due al Conservatorio, ma perfetto, purtroppo siamo stati rimandati. Sì, perché a casa. Ci hanno aperto la porta, poi vieni allontanato con molta gentilezza, perché sì. Tu gli hai fatto le tue canzoni. Sì, io gli ho detto: sono un giovane cantautore. Basta. Sì. Neanche la fine della frase, mi pareva giusto. Però l'idea, poi, al di là degli scherzi, l'idea, il progetto di fare il cantautore, come è nata, come si è sviluppata? Sassi? Ma un po' chiaramente nel tempo. Dunque, vuoi la biografia ufficiale di tutti i cantanti? È che iniziano giovanissimi, sì, tipo a 3 anni a sentire i Beatles. E muoiono a 30 anni. E muoiono a 30 anni. Tu invece? Ne ho già di più, quindi non è andata È già superato, quindi sei a posto. Mia nonna ascoltava Pavarotti. Che è morto un po' più tardi. Sì, un po' più tardi, 30 anni. E io ho iniziato relativamente tardi a maturare l'idea di provare, diciamo, di fare il cantautore, a scrivere, esatto. Perché il cantautore è una roba un po' atipica per te. Tu sei un cantante che prendi i tuoi pezzi, li sviluppi e diventi cantautore. Sì, il mio inizio è stato ascoltando Guccini. Francesco. Da buon bolognese, che, anche se lui non è proprio di Bologna. Non è proprio di Bologna, però ha vissuto. L'osteria, eccetera. Peruso Capione. Esattamente, nostro, sempre diciamo. Là. Okay. E è stato lì che mi è venuta la prima voglia di provare a dire qualcosa, ecco, con risultati. Con la chitarra di solito. Con la chitarra, io suonavo il pianoforte, tu suoni il piano, sì. a 8 anni, frustato dai miei per farlo, ma adesso li ringrazio. Però a 17 anni mi sono accorto che portare un pianoforte in spiaggia per suonarlo di fronte al falò mentre tutti limonano, sì, anche in radio non è che sia proprio comodo. Però stasera Alessandro l'ha portato, stasera l'ha portato. Esatto. E quindi mi sono cimentato con la chitarra. E perciò nulla, è iniziato così. Devo dire che a 14-15 anni farsi degli ascolti massivi di Cucini... Pesa, te lo porti, cioè, ci metti un po' a superarlo. Anche se Francesco è un genio, assolutamente un genio. Io sono gucciniano convinto, è un genio. Anche te, per me è una religione, esattamente. Però insomma, quella gioia di vivere, forse non c'è un po'. Ecco, ti posso già interrompere perché tu fai parte di una compilation, sì, che si chiama L'Arcobaleno della Speranza, giusto? Giustissimo. Cioè, la tua canzone fa parte della. Sì. Alessandro è stato l'ideatore assieme anche a... Giacomo Rossi. Ma insieme a te c'era un'altra persona che collaborava. Maria Stella. Ci sei, Maria Stella? Buonasera. Ciao, buonasera Stella. Ciao. Ciao, ciao. Benvenuta a Blu Radio Veneto, Maria Stella. Grazie, ben trovati. Come state? Noi tutti bene, e tu? Bene, grazie, bene, bene. Allora, come va questa... Bello sentirvi lì. Ciao Alessandro, ciao Sergio Limbo. Ciao, ciao, ciao, ciao. Li hai conosciuti anche lontani, di persona? Lontani ma sempre vicini. Li hai conosciuti anche di persona, giusto? Beh sì, con Alessandro ormai c'è un legame già da diverso tempo, quindi Alessandro sì. E Sergio Limbo ho avuto modo e il piacere di conoscerlo il 25 aprile quando è uscito. Sì. E questa bellissima compilation, L'Arcobaleno della Speranza, insieme nella musica per dare una speranza. Una speranza per la, per la ricerca. Sì, una speranza per la ricerca e la lotta contro perfino la leucemia. Come va la tua associazione, Maria Stella? Sta andando bene, ora stiamo andando in vacanza, speriamo che ci vadano anche le malattie, però purtroppo non è così. In questo momento, specialmente nella regione Lazio e in tante altre regioni, c'è tantissima carenza di sangue, che per chi lotta contro i tumori del sangue sono dei salvavita non indifferenti. Quindi colgo l'occasione e esorto le persone ad andare a donare il sangue, perché contro questa malattia è una terapia fondamentale, quindi donate e salverete tante vite. E te lo auguriamo. E questa compilation diciamo che si riallaccia a questa, a una prima canzone che è stata il primo inno alla speranza, sempre grazie a Giacomo Rossi e Alessandro Maiani, che cantava Luana Bellucci. L'Arcobaleno della Speranza si intitolava appunto, visto che quella canzone ha avuto un grande successo anche per sostenere sempre la nostra associazione, Alessandro e Giacomo hanno avuto questa bellissima idea di coinvolgere tanti altri artisti che hanno appoggiato con entusiasmo questa causa e quindi ci hanno regalato, come Sergio Limbo, una loro canzone appunto da mettere all'interno di questa bellissima compilation. Onore mio essere. Noi dovevamo farla completa comunque la sorpresa, Maria Stella, perché doveva esserci anche Luana questa sera, purtroppo aveva ci doveva raggiungere, poi invece per problemi suoi personali insomma non ha potuto essere qui, ma magari l'avremo solamente lei in un'altra sera con la sua musica, insomma. Però doveva esserci anche lei come ospite questa sera, ma comunque te la salutiamo, insomma. Grazie. Io so che ti ho strappato a un tuo impegno questa sera, però ci tenevo a fare... Sì, però mi sono fatta strappare molto volentieri, perché so che anche tu ci stai appoggiando e ci segui tantissimo. Lo sai. Nel nostro gruppo e vedo che hai accolto anche tu le nostre richieste, quindi certo. Volevo ringraziarti anche da parte di tutti. Grazie, Maria Stella. Da parte di tutta l'associazione. Ma lo sai, che come ti dicevo, come ho detto ad Alessandro l'altra volta in diretta, che ho vissuto, cioè non proprio di persona, ma quasi insomma questo problema con la leucemia, con un mio ascoltatore, anzi una mia ascoltatrice, una bambina, e da lì mi è sempre toccato veramente il cuore. Quando Paola Amelie me l'ha proposta questa compilation, che poi sono arrivato ad Alessandro, appunto ho ho detto, beh, devo fare qualcosa per voi, insomma, quantomeno così l'abbiamo presentata. Diciamo che l'arcobaleno della speranza è questo, è ricordare purtroppo chi questa battaglia l'ha persa, ma soprattutto sostenere chi in questo momento sta combattendo questa battaglia. Certo. Quindi sia economicamente, perché noi con gli eventi li riusciamo ad organizzare anche grazie all'acquisto della compilation. Siamo riusciti ad acquistare tantissimi macchinari per il reparto di ematologia, per far sì che i pazienti abbiano tutti i migliori comfort più possibili, perché vivono segregati, chiusi per mesi interi all'interno di reparti asettici, quindi lontano da tutti e lontano da tutto. Certo. E cerchiamo appunto, oltre questo, di aiutarli moralmente, e con la musica che non guasta mai. Certo, certo. Ma insomma, tu li hai già conosciuti, sia Alessandro che anche Sergio, giusto? Sì. Sono due splendide persone, me lo puoi confermare. Fantastici. E anche molto belli, vero? Beh, soprattutto. Ah, ecco. Non lo volevo dire, perché dopo sembrava, capito? Però sì, sono bravi. Ricordiamolo. Soprattutto belli. E quindi solo perché hanno comunque regalato questo loro lavoro, tra virgolette, all'associazione in maniera del tutto gratuita, per aiutare chi soffre, hanno un cuore grande, quindi meglio di così. Certo, che certo. Altro dire, speriamo di poter avere altre collaborazioni insieme. Lo sai che ti voglio qui a Padova per qualche concerto, va bene? Ah, magari, chissà, parla con Alessandro, che è lui quello che organizza. Okay. Ha organizzato un evento il 25 di aprile, appunto per questa uscita della compilation, formidabile. Sono rimasta senza parole. Ma adesso... è stata una giornata meravigliosa. Adesso ha detto che ne fa uno anche qui a Padova, comunque, non so se te magari l'abbia già detto. Sì. Ah sì? Ah bene, allora me lo segno subito. Sì. Me lo segno anch'io magari. Dimmi quando è, Ago. Va bene, Maria Stella. Ti ringrazio veramente, te grazie lo dico, a te per l'ospitalità. Te lo dico di cuore, della disponibilità. Ci tenevo a farti sentire qui in radio. Alla prossima, grazie a ciao tutti. Stella. Un bacione. Ciao Maria Stella, ciao. In bocca al lupo. Credi. Ascolta, ciao. Facciamo ascoltare la canzone della compilation, cosa dici? Certo, è perché è bellissima, è una delle di quelle un po' più ritmatiche, molto molto carina, veramente. Allora... E poi, se mi permetti, volevo dare il nome del sito dove possono trovare anche la compilation e le modalità di acquisto, che è www.arcobalenodellasperanza.net, e lì trovano anche come è nato la CD e tutti gli artisti che ne fanno parte. Va bene. Vuoi fare tu la speaker, l'annunci la canzone? Ah, no, prego, non voglio rubarti. dai, no. Dai che ci riesci, dai, provaci. No, fate. Va bene, Maria Stella, ci ascoltiamo allora da Spinning Jenny e anche dalla compilation L'Arcobaleno della Speranza, Il treno per Marte, canta Sergio Limbo. Ciao! Ciao! Scusi, sa quando parte il treno per Marte? Che ho bisogno di una vacanza. No, che non scherzo, vengo giù da Faenza e ne ho abbastanza. La fuga all'estero dei bidelli, il riscaldamento centrale, l'eterna lotta del bene contro il sale. Oh mio Dio, ma che razza di mondo, io non credo più ai miei occhi. Confessa ragazzo, tu di notte ti fotoritocchi. No, non ci si può fidare di questi giovani d'oggi e di me, che sono un sognatore. E con questi aggeggi nuovi ci si parla e non si legge più. Ma tu quest'anno al mare voglio andare su Giove, sempre se non piove. Vedere un mondo senza le persone non può farmi che bene. Cantanti, filosofi, comici, santi, il giovane che si oppone. Io sono talmente contro che sono a favore. Osteria numero zero, metterò il vestito nero per il funerale del pensiero. No! sono un vecchio attore e con questi aggeggi strani ci si salva e non si esce più. Ma tu non fidarti dei discorsi brillanti, dei completi sgargianti, degli occhiali, degli intellettuali. No, non ci si può fidare di questi giovani d'oggi e di me. Sono un truffatore e con questi aggeggi nuovi ci si parla e non si legge più. Ma tu sorridenti e cantano canzoni che non dicono niente. Salvami dai loro tramonti, da quelle rime da bambino. Hanno più deviazioni di un centralino. No, non ci si può fidare. Le cover band mi uccidono di più. Sono tutti troppo belli. Tu ti devi accontentare di questa faccia che conosci già, piena di segni dell'età. Scusi, sa quando parte il treno per Marte, che ho bisogno di una vacanza. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua. È passata Maria Stella, ritorniamo a quella che è la carriera, diciamo, tra virgolette, di Sergio Limbo. È una parola troppo grossa? Un pochino. No, è che siamo venuti in auto, la corriera. Non in carriera, in autobus. Parliamo un momento allora del pezzo, che abbiamo sentito qualche secondo fa. L'arrangiamento è molto interessante e soprattutto la chitarra, un grande chitarrista Alessandro che ci suona dentro. Si chiama chitarrista? Lucio Martelli. È un tuo amico, ma è un musicista soprattutto, oltre ad essere un tuo amico. Sì, diciamo che ultimamente è diventato il chitarrista delle mie produzioni, anche se ne conosco diversi, molto certo, bravi, e ovviamente a seconda del genere e a seconda del tipo di impronta che io voglio dare, scelgo magari quello che credo sia più adatto. Con lui ho un grosso feeling anche perché ce l'ho personale, quindi è molto facile anche spiegarci quello che intendiamo in gergo anche non musicale, e questo è importante perché insomma nelle produzioni della musica pop, rock, non si parla tanto a si bemolle, mi diminuito, cioè dici fammi una cosa un po', che ne so, attico, grunge, cioè, un po' più attico, esatto, cioè, devi usare dei termini che comunque se ti arriva anche quello bravissimo e non ti capisce, esatto, non serve tutto il giorno, non tira fuori quello che non vuoi, serve tu. Assolutamente. Lui invece è stato velocissimo e molto bravo, perché sinceramente, tra l'altro vorrei citare anche uno dei complimenti che ci ha fatto più onore del disco, che è stato fatto da un altro grandissimo chitarrista più famoso, che è il chitarrista di Neck, che è Massimo Varini, sì, il quale ha detto complimenti per gli arrangiamenti del disco, quindi cioè comunque evidentemente sia chitarristicamente che in generale è stato un buon lavoro, è piaciuto perché lui insomma è un certo nome nell'ambito. Bene, quindi c'è stato un feeling totale, ma nel 1997, caro Sergio Limbo, che feeling c'era per le dolenti note? Ah, un grandissimo feeling. Era un demo, proprio l'inizio di carriera, hai manciato con un demo. Sì, sì, sì, Dolenti Note è stato il mio... Perché io pensavo fosse uno scherzo, ma veramente era un gruppo che tu avevi inventato. Sì, sì, sì, sì, eravamo quattro amici al bar, come diceva quella canzone, e più o meno non sapendo nessuno suonare abbiamo ben pensato di fare un gruppo, no? Certo, si fa sempre così. Esatto. Così almeno non si sa chi dar la colpa. Esatto, anche se di solito era del batterista, però vabbè. Sì, che il ritmo lo metteva lui, ma non andava a ritmo. No, eravamo un gruppo di amici, insomma, partiti da esperienze comuni, eccetera, abbiamo fatto questo gruppo, l'attività prevalente era imparare le canzoni, neanche andare a suonare, perché già andare a suonare era un bel passo. E poi appunto un bel giorno abbiamo sotto scorta di qualche canzone già che avevo, avevo scritto, abbiamo fatto questo tentativo. Parliamo di un nastro magnetico. Sì, come si usava una volta. Roba da medioevo. Certo, certo. Rispetto adesso. Sì, rispetto adesso. E registrammo questo demo e fu l'inizio, diciamo. Però cioè, registrate questo demo, 1996, nel 98 arriva Alessandro. Sì. Arriva Alessandro. Con un altro demo, quello è importante. Eh sì. Era così Alessandro, hai sentito un nuovo demo. Veramente è arrivato lui. È arrivato lui. Sì, perché lui, ho bussato alla porta. Lui ha bussato. Non era il conservatorio. Non era il conservatorio e mi ha fatto entrare, infatti, questa volta. E, se, in realtà il rapporto con Alessandro è iniziato in modo... Non dire. Non posso dire. Ah no, è vero. Teniamo famiglia. È iniziato così, insomma, molto tranquillamente. Dovevo fare una base, quindi... Che lui è uno studio, dobbiamo lui è uno studio, probabilmente, quindi... sì, Alessandro, certo. Magnani, posso anche fare una marchetta al sito, mproduction.it. Con la S, mproductions, perché non è una production, ma anche se una vale. Una è la migliore, però, esatto. Ed è quella di... E quindi mi serviva una base, mi avevano consigliato questo giovane, perché, diciamolo, eravamo giovani. Siamo soprattutto stati giovani. Tu eri giovane. Soprattutto io ero giovane, tu eri già un po' più vecchio. E partito con questa, appunto, questa base, dopo è nato un feeling, si può dire questo? Sì, sì, può dire. È nato un feeling, un rapporto, per cui quando, purtroppo, diciamo, con le dolenti note ci siamo fermati lì, dopo sono andato avanti in solitaria. Posso dire, certo. perché lui mi ha portato un pezzo che si chiamava I funerali di Paperina. Cioè, allora, però è titolo di... ecco, al di là del titolo era se voleva essere serio. Era terribile, perché da lì ho capito proprio come l'ironia di Sergio fosse veramente invece devastante, perché non è Elio le storie tese, perché apparentemente dici no, ma lui fa un po' non è proprio l'ironico così. No, cioè lui fa l'ironico ma poi ti dice delle robe pazzesche, e questo funerale di Paperina alla fine invece era un testo serissimo e mi ha colpito molto, quindi al di là della capacità, perché lui in realtà non sa cantare, diciamo, non sa suonare, cioè non sa fare niente. Il bello di essere un cantautore è quello, proprio quello, che se tu sei un cantante devi essere intonato, hai ragione. Invece i cantautori no, no, no. Cioè Vasco Rossi dice, no, non è intonato, non far nome e cognome, poi telefona, no, dice, però, era un complimento, però era un complimento, cioè, io l'ho detto di Jovanotti una volta, mi hanno detto no, non si può dire, no, vabbè, però è vero, cioè, e tra l'altro vabbè anche no, basta. Comunque un po' l'avevamo capito, sai Sergio, che eri un tipo molto sull'ironico, molto sull'allegro, scherzoso, perché basta andare su YouTube, c'è quella canzone che è in mezzo al campo lì, che corri, che come si intitola quella canzone lì? Astronave base. L'astronave base. Che è un bel pezzo, al di là dell'ironia, ma è un pezzo molto interessante. Grazie. Quindi già là ti dai un'immagine così allegra. Una cosa che voglio chiedere a Alessandro è questa. Tu hai sentito questo primo testo di Sergio Limbo e hai detto, ma... come riesco a recepire un cantautore di questo genere atipico? Come lo posso mettere dentro nella mia produzione? Come posso fare un progetto? Premetto che quando ci siamo conosciuti io ero semplicemente un arrangiatore. Non avevi ancora l'idea? Sì, cioè stavo iniziando il lavoro, quindi lui è stato uno dei miei primi lavori e quindi ovviamente ero acerbo e non avevo ancora l'etichetta discografica, parlavo proprio solamente di rapporto di clientela, cioè tu mi chiedi un servizio e io te lo do. Basta. Però ovviamente gli ho fatto i complimenti, mi è piaciuto, ci siamo tenuti in contatto e dopo mi ha portato successivamente tutti gli altri lavori. Da lì poi ho cominciato a vedere che quando facevo qualcosa per lui era contento e io ero contento, cioè quindi comunque facevamo un lavoro di squadra che funzionava. Perché questo non è che sia così scontato, come no. Ti parlavo prima del chitarrista, certo. Giusto per magari il pezzo giusto, c'è anche l'arrangiatore che magari ti dice bravissimo, però se lo metti a fare il disco di Sergio Limbo non rende come magari rende un altro. Certo. Quindi... noi ci siamo beccati, diciamo così, e quindi lui è stato uno dei miei primi lavori e continua ad essere uno dei miei lavori di punta, perché quando esce un suo disco la soddisfazione nostra è sempre cioè proprio è altissima e sì. Questo già per me è abbastanza, insomma. Sì, diciamo che il rapporto si è evoluto, sì. E consolidato. L'ultimo disco sicuramente è sopra agli altri, come sì. Connubio di, certo, di tutto. Sì. Cioè, sì. dal purgatorio di Via Misa fino all'ultimo c'è stata un'evoluzione completa, allora. Sicuramente, penso da parte di entrambi. Sì, sì, sì, anche compositivamente, cioè quando mi ha portato queste canzoni ho detto qua si fanno due dischi, se vuoi, perché comunque i pezzi forti ci sono anche per due dischi. Però poi avete deciso di fare uno solo. Ma sì, perché comunque alla fine, non essendoci nel mercato emergente questa necessità, o cioè non c'è grossa richiesta. Non dobbiamo stare troppo attenti al marketing. No, purtroppo no. Quindi, certo che comunque è strano per i tempi odierni, insomma, trovare un CD con 18 canzoni. Che non sia una compilation, voglio dire, che non sia un greatest hits, non so. Ti dico questo, paradossalmente adesso con la perdita, adesso mettiamo via l'arrangiatore, arriva il discografico, sì, vero che sta proprio lì a guardare gli 5 euro. Certo. Allora ti dico, quando paradossalmente una volta tu mettevi fuori un disco, che fosse un vinile o che fosse un CD, con 10 pezzi, lo facevi pagare, non lo so, 10-15 mila lire ai tempi o 12-15 euro adesso, cioè costa uguale se ha 10 pezzi e se ne ha 20, no? A meno che non fai un CD doppio, cofanetti, quelle robe lì. Però il CD è il CD. Adesso c'è il digitale. Questo digitale cos'è? Che se compri il disco hai un costo, però tu devi moltiplicare il numero delle tracce, perché comunque puoi comprare anche una traccia singola. Quindi se tu metti 18 tracce a 1 euro, sono 18 euro. Di conseguenza, se tu il disco lo vendi a 15, nessuno ti dice niente. Quindi commercialmente, diciamo, in realtà... Allora, diciamo così, io spero che voi abbiate capito, perché io non ho capito assolutamente, cioè, mi sono perso a 15, da lì in poi nebbia. Comunque però, diciamo, insomma, che hai più possibilità nel numero di recuperare qualcosa. E ecco, soprattutto che... avendone scritti così, è inutile neanche, giusto, giusto. Però comunque, insomma, ci vuole comunque un po' di come dire? Questi pezzi sedimentano un po' esperienze maturate nel corso di del tempo. Sì, di tempo. Da questione di stile adesso, quanto c'è stato di passaggio? C'è stato parecchio, perché questione di stile è l'ultimo lavoro. 8 anni, cioè sì, dalla sì, composizione sì, sempre, dall'inizio, esatto. Sì, questione di stile, poi tu l'hai definita in una certa maniera. L'album della maturità. Esattamente, perché? Perché, scherzosamente, perché quell'anno ho ottenuto la maturità in tutti i sensi, ma purtroppo non è vero, non sono così, non sono, cioè, non tornano molti conti. L'avevo già avuta molto prima pagando. E no, quello è l'album della maturità, per occorrenze della vita, diciamo. Certo. A un certo punto, cioè, hai dovuto scegliere. No, c'è un momento, proprio parlo della vita, almeno nella mia è stato così, in cui c'è stato un po' uno spartiacque fra il prima e il dopo. In quell'anno c'è stata una perdita importante, che e altre cose che sostanzialmente hanno fatto scattare una molla diversa, che si è riverberata sicuramente in quel primo album e che continua anche adesso, si è sedimentata in questo, perché chiaro, insomma, ci ho messo un po' a elaborare. certo, è chiaro poi così. Maurizio, diamo spazio ai sì, loro dobbiamo strumenti. Suonare, assolutamente dobbiamo suonare. Siete già pronti? Dobbiamo suonare. Suonare. Non l'ho mica preso da tastiera. Sì. Cosa ci fate ascoltare? Mi dica lei. Su questo eravamo impreparati. Siamo dal vivo qui. È tutto dal vivo questo. Qua non esistono scalette vere e proprie. Orfeo, va bene. Orfeo. Allora, facciamo sentire. Andiamo subito tutti a sognare, no? Così? No, Orfeo no, sì. Non c'è. È Morfeo. Aspetta, ma tu chi sei? Dunque, sì, partiamo con questo primo pezzo, Orfeo, che è così, sempre un po' fra il serio e l'ironico, ripercorre un po' questo mito. Questo mito, esatto, di questo cantore che riusciva ecco ad ammansire le adesso belle. Ho capito. Esatto. Mi sposto. Sì, prenditi pure l'impostazione B. Impostazione B. Alessandro, tu sei pronto? Io sono pronto, guarda. Tastiera. Funziona. Quando Sergio è pronto, possiamo tranquillamente partire. Allora non partiamo più. È il bello della diretta. Devi dirgli pronti, via. Sei pronto, Sergio? Ok, direi che sono abbastanza pronto. Ok. Okay. Cap capita, è capitato che sono nato così lontano dalla mente dell'uomo pratico, matematico, intelligente, ma veramente in tre cose sole: giocare con le note, le anime, le parole. È capitato che io sia stato delicato, il tempo sfuma la musica, troppe domande chiuse in un'anima, portami via, tu che sei qui per me. Nascondimi nell'inverno, salvami dal mio inferno, asciugami e tienimi con te. Tu che guarisci, che tutto abbracci con uno sguardo, io non mi perdo, io mi ricordo di appuntamenti ad aspettarti in vano, rubare un bacio, chiedere perdono, il tuo respiro trema in un momento, e se indovini dove vivo hai vinto, di notti intere a raccontare di come piangi senza alcun rumore, il tuo destino in un biglietto scritto, le corse a piedi fino al pozzo finto. Capita, è capitato che ti ho incontrato, raccontami di musica, del posto in cui sei nata, partita per ritornare, perduta ma per due ore, rapita solo per farti salvare, fino all'inferno e poi ritorno. Canto, non ho più voce, ma se ti piace io resto qui per ore per saperti felice, proprio come Orfeo, come Euridice, come in un sogno, io canto il mio bisogno di avere la tua pace. Non ci spaventa neanche la belva più feroce. E tu raccontami sottovoce di appuntamenti ad aspettarti in vano, rubare un bacio, chiedere perdono, il tuo respiro che si fa più lento, e se indovini dove vivo hai vinto, di notti intere a raccontare di come piangi senza alcun rumore, il tuo destino in un biglietto scritto, le corse a piedi fino al pozzo finto. Se mi consentite, direi che Sergio ha aperto alla grande la serata, vero, dal vivo. Grazie. Complimenti vivissimi, veramente. Sei, sei riuscito a non sbagliare neanche una nota. Bravo, bravo. Carlo, ho sbagliato io. Parlava di questo amore, beh, il brano è molto incalzante, grazie al piano di Alessandro, tu lo segui, molto bene, incalzante. Hai capito bene. Hai capito bene. No, è molto molto interessante. E versione acustica questa sera, chitarra e piano, dà una certa dimensione, Sergio. Grazie. Io l'ho trovato molto, molto trascinante, ecco, posso dire questo? In questo sembra proprio trascinante. Sembra che tu corra continuamente e lui ti segue, poi ti ferma un momento e poi riprende. Una questione un po' come l'amore. Appunto, come l'amore, esatto. Visto che il centro del discorso. Parole grosse. Visto che questo, beh, centro del discorso c'è l'amore. È dedicata a mia moglie. Certo, certo, certo. Però è molto, molto interessante. Secondo me è fatto bene. Qua dentro è una dimensione un po' diversa dal disco, però sì. Che elettrica, piano e voce e chitarra, però. Si può anche capire in questa dimensione. Ti ringrazio per questa. È un, può essere un'idea anche. Sì. Non so, in effetti. Ma no, ci abbiamo pensato, cioè, anche Sergio è molto complicato come artista, devo dire. Per un attimo, però è un complimento. È vero? Un complimento anche questo, okay. Sì. No, è complicato, lo dico per i prossimi eventuali produttori che vorranno sbarcarsi. Io lo metto sul mercato adesso, anzi, ne approfitto, lo vendo. 1000 euro è vostro. Mi compro. Ok. No, è che in realtà è complicato perché proprio per la sua varietà. Cioè, noi abbiamo fatto pochissimi eventi con lui perché ci rendiamo conto che avremo bisogno di cose veramente grandi. Cioè, ha bisogno di tante cose. Sì, ha bisogno di una strumentazione, ha bisogno di produzioni tipo. Che non sono pagabili, diciamo, proprio, scusate, se adesso mi sono entrato nel ruolo, dopo torniamo sull'arte. Però quando fai un concerto, ovviamente non dici vabbè, voglio diventare ricco, però neanche devo andarci a... E quindi comunque devi pensare che lui ha un disco dove ci vogliono, non so, 8-9 musicisti. Eh sì. E comunque devono variare molto, cioè è molto bello il suo lato acustico, però se per esempio facciamo il treno per Marte, quella che abbiamo fatto prima, che abbiamo anche provato tra l'altro, non rende, non c'è proprio. Ma come mai secondo batteria, te Alessandro, Sergio Limpo dà questa dimensione della complessità della strumentazione? Secondo me non è lui, siamo le sue canzoni? No, siamo un po' tutte e due, nel senso che lui comunque quando arriva da me arriva a chitarra e voce, non fa niente, lui arriva dopodiché io gli dico questa è l'idea e lui dice bella e andiamo avanti. Quindi l'idea ha bisogno di uno sviluppo ulteriore. Sì, poi magari mi dà una direzione, io gliela devio un po' e mi dice va bene, però è difficile perché comunque quando io sento una canzone cerco di fare un disco, però poi cerco anche di fare la canzone. Quindi non è che posso fare tutte le canzoni simili solo perché è un disco unico. E allora diventa poi così, diventa che c'è la canzone che secondo me è più adatta in acustico, per esempio Non, certo, che la farà dopo dal vivo, è assolutamente fedelissima perché nel disco è così. È così, certo, esatto. E questa Orfeo no, però comunque ci sta, come dicevi tu, è una versione. Una rivisitazione. Sì, è una versione. Noi abbiamo un po' questa alchimia, non, correggimi se sbaglio. No. Io magari sono un po' più sul versante della chitarra distorta. Sì. Alessandro ha più... Più trasgressivo, leggermente. Forse. No, non dico leggermente, cioè sì. Adompi delle sonorità non prettamente... acustiche, sì, esatto, forse un po' più rock, movimentate, un po' rockettare. Alessandro invece ha molto questo piglio più, come dire, di metrica, di pop, di pop. E insieme, anche se questa versione non è propriamente pop, no. Diciamo che però io ho l'impostazione del piano, quindi comunque io sono un musicista che nasce col piano, poi so anche strimpellare la chitarra, ma proprio a livello di facciamo la cosa in spiaggia, e quindi comunque ovviamente il mio apporto è quasi sempre tastieristico, dopodiché c'è anche il gusto ovviamente, e io quando sento, anche con l'età poi si cambia, sento le chitarre acustiche, adesso mi impazzisco perché mi piacciono da morire, quindi gliele cerco di propinare ovunque. E lui è contento poi alla fine di avere questo incastro. Io sono più chitarraio, quindi... Sì, lui è un... Io sono un boom. Ehi. Ma lui va a vedere i Led Zeppelin. Andava. Però tu quando arrivi da Alessandro, ti aspetti che te la stravolga la canzone o che rispetti... No, devo dire che non è mai successo. Cioè, più o meno l'alchimia nasce proprio da queste cose. Cioè, dal fatto che... Cioè lui io arrivo con un'idea e lui riesce anche a stupirmi, però senza mai esagerare. O sempre sul trend, quello è il trend. Esatto. Poi devo dire, adesso un complimento anche se lui è qua, però glielo devo fare, cosa tocca. In questi anni c'è stata da parte dei suoi arrangiamenti un'evoluzione palpabile e devo dire che con questo lavoro secondo me ha raggiunto una... È inutile fare i finti, cioè questo qui è proprio venuto bene, bisogna dire. Dobbiamo tenere conto di una cosa, Alessandro è musicista e anche produttore, deve tenere conto di questi due fattori che non sono pochi. Però ecco, quando sono lì faccio fatica, devo dire la verità. Non puoi dividerti. No, è che sono comunque abbastanza sul lato artistico e meno su quello commerciale, nonostante delle ultime battute ho parlato solo di numeri, però in realtà non è così, cioè con Sergio sono soddisfatto non delle vendite, sono soddisfatto del risultato, tant'è che proprio qua faccio fatica anche a fare il modesto perché sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto e non mi interessa sapere se ha venduto di più o di meno, quello che conta è che il lavoro secondo me è veramente venuto come noi lo vogliamo, poi non voglio dire bello da quello spetta al pubblico, certo, però noi siamo veramente strafelici, mentre magari guardando i lavori passati mi verrebbe da dire qualcosa si può cambiare, stavolta proprio no, sono proprio... Ma infatti quando mi è arrivato il disco che tu Alessandro mi hai fatto prevenire, io che l'ho ascoltato assieme agli altri, insomma questo mi è piaciuto veramente subito, sì, come grazie. Anche quello di Alex che ti ho detto, sì. e poi anche di qualcun altro che poi magari ne parleremo in seguito quando sarà il momento, al debito tempo insomma, però ti dico, la prima cosa che comunque lo ripeto per l'ennesima volta che mi ha stupito è la quantità di numeri di canzoni, insomma, la quantità di canzoni che c'è all'interno di questo disco sembra quasi infinito, non ti stanchi mai. Non ti stanchi, sì. Forse io almeno no. Forse questa è la cosa più importante, cioè che non abbiamo fatto un lavoro che ti annoia, ma no, assolutamente. Spero almeno. Poi c'è una canzone, c'è una canzone, te la dico dopo quale, però. Che l'ho ascoltata a ripetizione, poi te l'ho detto anche Alessandro mi sembra, non mi ricordo, non ti ricordi, l'ascoltavo continuamente sempre quella, perché sono curioso perché faccio questi sondaggi io, anche tra i bambini, diciamo che ha, non ti dico quale, però c'è il nome di donna, va bene? Ah beh, allora non è così difficile, è l'unica appunto. Allora forse dopo l'ascolteremo. Io pensavo fosse quella per tua moglie, non so perché. Forse un po' sì. Ce n'è più. Come si chiama pure tua moglie? Jenny. Ok, secondo me è quella. Va bene, ascoltiamo ancora qualcos'altro. Cosa volete ascoltare? Ancora dal disco o ci suonate qualcosa dal vivo? Alterniamo. Sì, facciamo un pezzo dal disco allora. Se ci beviamo un po' d'acqua. Hai scelto L'amore di Belfagor. Sì. No. Che bella canzone. Posso dire una cosa? No, la devi dire tu, no? Scusa. No, io volevo solo una canzone trecentesca. No, è che questa qui, secondo me, posso dirlo, è una, siccome questa qui se la porta dietro da quasi dai funerali di Paperino, diciamo. Cioè se la siamo fatta in più versioni, perché secondo me è proprio una di quelle canzoni che subito forse dici ma cosa sta succedendo, dopodiché secondo me diventa se ti piace Sergio questa qua è forse una delle tue preferite, e c'è in secondo me tre versioni abbiamo fatta, due più una live, una live, esatto, esatto. Comunque tre. Questa in realtà è una canzone tipicamente del 1300. Ok, cioè, perfetto. Ma c'è la donna Angelo, cioè lui è Highlander, c'è la donna Angelo che ti guarda e tu povero diavolo che sei sotto e la guardi e dici, secondo me così. Questa era più o meno la genesi. Li hanno chiamato in causa anche Dante. Io l'avevo associata al Louvre. La fantasma del Louvre. Sì. Va bene, ci sta anche lì. Perché mi ricordo Belfagor come il fantasma del Louvre. Il famoso sceneggiato francese. L'amore di Belfagor. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, Sergio, l'ascoltiamo. Voli da sola per sfuggire da quel che hai intorno. Vorrei essere le ali che ti porteranno via. Un nuovo giorno senza nostalgia. Un amante distratto che ti ritrova e non sa che sei sua. Amniotico, lirico, l'unico, misero. E vorrei essere lassù dove mi stai guardando invece. E vorrei essere lassù dove mi stai guardando invece. Thank you. raggiungerti anch'io, anch'io fuggire di qua, perché ti trovo bella come la verità, come un amante sensuale libera che mai mi apparterrà, e mi sembri angelica, fulgida, libera, liquida, mamma mamma musica, misera e magnetica, ipocrita e ascetica, romantica, timida, puro spirito, oh, illumina, e vorrei essere lassù dove mi stai guardando, e invece vorrei essere lassù dove mi stai guardando, e invece sono qua giù. Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Pezzo assolutamente rock. Il rock fa bene alla salute. È un pezzo che ha avuto una complessità nella costruzione, vero Sergio? Sì, non è stato facile, soprattutto la ricerca dei suoni. Ecco, è stato un po'... Cioè, eri, c'è voluto, cioè, c'è un po'... Volevi un certo tipo di suono. E lì è difficile spiegarsi, perché quando tu hai in testa di dire un suono più scuro... Più scuro... vuol dire tutto, non vuol dire niente. No. E lì è stato bravo Alessandro. Anche perché la chitarra, oltretutto, non ha la semplicità della tastiera che suoni un tasto, poi fai col computer, cambi il suono, ormai è diventato così, no? La chitarra è la chitarra, quindi già devi avere una chitarra che ha un suono, poi la infili all'interno di un amplificatore che ha un altro suono, quindi potresti trovare n combinazioni di chitarre e amplificatori, provarle tutte, e ovviamente è insomma diventano lavori da... In questo caso è stato un po' più laborioso che negli altri, sì. Però, poi, però penso che il risultato è stato ottimale. E anche il finale, questo finale di qualche secondo, è un po' da incubo, questo pianoforte molto scuro, molto dark, secondo me. Sì, in realtà il pianoforte è un po' una sorta di... vuole essere un filo conduttore che... parte e parzialmente chiude l'opera. Qualcosa che idealmente accompagna l'ascoltatore durante le tracce. La Fil Rouge, esatto. Ho capito. Però io l'ho trovato abbastanza pochi secondi, ma abbastanza neri nel senso un po' dark, un po' oscuri. Allora il suono oscuro è il finale col pianoforte. Non so se sia volutamente fatto da Alessandro Cosi. Questa è una parte che ho suonato. Hai suonato te? Sì. Alessandro ha fatto il 95, 97, 99% è cresciuto di volta in volta. Dai, di 100, dai. No, però quello 0,1% di piano, il piano. Cioè, dove sentite che è suonato male è lui. Esatto, il filo conduttore di cui si parlava prima l'ho voluto suonare io, diciamo, e in questo caso metterlo dopo L'amore di Belfagor aveva proprio quella... questo senso era questo. Anche il contrasto fra la distorsione delle chitarre, sì, esatto, che chiude, un pezzo molto potente con il piano. Nell'ambito di quello che hai detto prima Alessandro, della difficoltà di proporti dal vivo con un sacco di musicisti, un pezzo come questo, quante chitarre ci metteresti? Un muro un muro di chitarre. Qua ci vogliono gli Iron Maiden. Esattamente. Sì, ci vogliono chitarre abbastanza potenti. Sì, e più che altro ci vorrebbe anche un muro di amplificatori. Mm, perché sì, qua se vogliamo entrare nel tecnico, puoi anche avere due chitarristi, però sì, ci vuole un muro, muro dietro. Perché questo è un suono da muro, chiaramente, sì, un pezzo molto potente. Ma quando fai live, proprio i concerti veri e propri, quanti musicisti siete? Beh, dunque, premettendo che io non ho un gruppo, quindi sono musicisti che mi affiancano, diciamo. Turnisti, esatto, contattati tramite Alessandro, con cui comunque c'è un rapporto che va di là, però... Anche con loro, i rapporti già in piedi. I miei rapporti vanno al di là, a prescindere. Alessandro, non puoi avere l'esclusiva. Qua mi sembra che sparfalli un po' troppo, però. Comunque siamo Alex Cuoci, detto Bello Sguardo, alla batteria. Detto Bello Sguardo è importante, è più famoso come Bello Sguardo che come Alex Quartz. Per me sì, io non so come lo chiamino i suoi genitori, ma io lo chiamo Bello Sguardo, Bello Sguardo. E lui si gira. Simone Masina al basso, e poi abbiamo Roberto Minotti alla chitarra, o Lucio Martelli che ha suonato anche in questo CD. Sì, è una mini band in realtà, è quello il punto. Cioè, purtroppo quello che dicevo è che per fare delle produzioni come la sua e farla rendere ci vorrebbe di più. Certo. Però poi ti devi confrontare con le esigenze, il palco che non è enorme e tutto il resto. E tante altre cose, sì, chiaramente. E anche il fatto che proporre musica propria non è proprio che te lo chiedano tutti quanti, sì, diciamo la verità, insomma. No, a maggior ragione nel tuo caso, secondo me, perché comunque ma non mi cerca nessuno. No, era proprio un discorso di produzione, cioè. Ma fai parte anche tu, Alessandro, dei suoi musicisti? Ma in realtà sì e no, in passato mi sono defilato nel momento del bisogno e avevamo creato delle basi, delle sequenze, che anche questa è una cosa moderna, no? Cioè avere le sequenze sotto e suonare sopra, quindi comunque avevamo già una copertura. E adesso nel progetto futuro, che speriamo di poter attuare a breve, invece mi piacerebbe esserci con sempre delle sequenze, perché per suonare tutte quelle tastiere lì ce ne vorrebbero tre di tastieristi. Diciamo che vorrai essere anche tu sul palco quando cominceranno a piovere le reggiseni. Esatto, lo scopo è quello. Ho capito, non mancheranno, te lo assicuro. Va bene, ci ascoltiamo qualcosa dal vivo ancora? Certamente. Va bene, maestro, lei cosa dice? C'è questa? Ok, allora... Okay. Questa qui ha un titolo molto originale, sono quelle canzoni, posso dirlo io, no? Anche se l'hai scritta tu, sono quelle canzoni che uno scrive e poi non c'è il titolo, no? E allora dice, la chiamiamo in un modo così, no? Lui l'ha chiamata Sergio Limbo. Così, un nome di fantasia. Un nome di fantasia. Però non fa così proprio esattamente, aspetta un attimo. Come fare a dire, vorrei riprovare un giorno, solo per capire cos'è una partenza senza un ritorno. Come farmi perdonare quando tutto tace, come fare a farmi dire che in fondo sono felice di me. L'universo e ho capito il senso della vita a tempo perso. Quel che manca è la tua voce, quel che manca è quella pace. Ci svegliamo un'ora prima e nessuno è felice, ma qui c'è uno spettacolo che non ho mai visto. Sono io il protagonista e non mi riconosco. Se tu mi vedessi adesso, non sai cosa hai perso, sono sempre della stessa altezza, ma uno sguardo un po' diverso, sono un vecchio attore, parole un po' da bimbo, sono un nome su un biglietto, telefonare, ore basta, Sergio Limbo. E cosa ci rimane di ore e ore e ore lì a parlare? Dove quella foto che ritraeva il mio passato? Dove quando è stato che tu mi hai inventato? che vorrei capire, magari riprovare un giorno, cancellare la partenza, inventarsi un ritorno. Ma qui c'è uno spettacolo e mi sto divertendo, vedo una cosa un po' vivente a nome Sergio Limbo. Qua da come comico, antipatico, insolente, come una lettera d'amore ritornata al mittente, tutta la mia vita dentro una canzone, tutto il mio futuro dentro il mio nome. Ci manca l'applauso, ma lo facciamo noi. Meritato, meritato. Un pezzo molto, molto bello, molto, molto, bello. Molto quasi teatrale, posso dire questo. E devo dire che quando l'ho scritto pensavo proprio come di essere in un teatro. Esattamente. Io lo come se recitassi. Però non ci siamo messi d'accordo, diciamo. No, assolutamente no. E citi anche Gozzano qua. Come mai? Una piccola citazione. Una piccolissima citazione. Minima citazione. Io non sono un esperto, per carità, però è un poeta che così poi più di altro mi tocca quelle corde un po' profonde che non si sa a volte perché alcuni poeti tocchino e altri meno. Però questo è teatrale anche, però leggermente tedesco, nel senso di Kurt Weill, secondo me, come l'ha suonato un po' Alessandro. Aveva quella dimensione là. Sì, in questo. Cosa dici, Alessandro? Dimmi. È forse gli unici, direi, di questo CD, gli unici pezzi che è stato proprio composto al piano. Ah, ho capito. Sì. Per questa dimensione, forse? Credo di sì, credo che se la porti dietro dalle origini. Lui questo infatti me l'ha presentato pianoforte e voce, a differenza degli altri, e io ho reinterpretato un po', però in realtà ho seguito molto la sua linea. Poi vabbè, oggi in realtà io qua mi sto un po' sbizzarrendo, facendo anche cose... Testai ad allargare. Sì, ho cercato di fare anche cose un po' oltre, però in realtà nel disco poi c'è tutto un po' meno. Però qua, come abbiamo detto all'inizio di questo pezzo, il teatro ci sta praticamente, ci sta. Io ho un minimo trascorso da attore. Ah, vedi che qualcosa c'è, viene fuori qualcosa. Amatorialmente. L'avevo visto da qualche parte. È vero? Era una faccia conosciuta. Facevi fotoromanzi. Sì. Bravissimo. Però io voglio sapere questa canzone, com'è nata allora. Ma è proprio tua, biografica, insomma. Tua. Sì, sì, questa canzone appunto come... Sei tu, ispirazione. Insomma. Ho cercato di metterci dentro un po' quello che potevo di me stesso in quel momento, scrivendo idealmente a una persona che non c'è più, insomma, e quindi mi immaginavo questa scena, appunto, non sai cosa ti sei perso, però sono sempre io, insomma, ho lo sguardo un po' diverso, ci manchi, ma siamo sempre qua e andiamo avanti. Ma come ti è venuta l'ispirazione per questa canzone? Oddio, è una cosa difficile. In realtà molto banalmente, ovviamente, premessa, periodo nero, grigio scuro. Mi preparo per uscire, sono lì che mi cambio le scarpe e mi viene in mente, come fare a dire... Vorrei riprovare un giorno. Ma è vero sta roba? Giuro. A quel punto dico, carina. E mi sono cambiato le scarpe in mezz'ora. per finire almeno la frase. Almeno la frase. Questa è un po' come è nata. Poi dopo... Sì, cioè l'hai sviluppata. Sviluppata. Tutto. Ma in genere comunque le tue canzoni nascono così, all'improvviso, insomma. Mentre si cambia le scarpe. potrebbe essere un'idea. Ho un set di scarpe. ogni artista c'ha sempre un qualcosa. C'è chi dice vado a fare la spesa, c'ho il telefonino, mi viene in mente, finché faccio la spesa... Sì, non c'è una regola. In realtà di solito... con lo strumento in mano, questa è venuta così. Da un punto di vista temporale, questo pezzo qua è nato prima degli altri o è nato dopo? È nato prima. Questo e Astronave Base sono i due nati. Perché Astronave Base, secondo me, ripeto, l'avevo ripetuto prima e lo ripeto ancora adesso, è un pezzo molto interessante, anche come arrangiamento, come costruzione, complesso, però dà una certa grinta, dà un certo sviluppo, poi ne parliamo. Sì. Però, e questo può darsi che sia sulla stessa linea. Questi sono i due che sono nati per primi dopo il 2004, quindi ci sta che abbiano una stessa... Esatto, perché hanno iniziato il progetto, forse è quello. Sì. Hanno dato il là al progetto. Hanno dato il là al progetto, pezzi diversi, certo. Per molti aspetti, però se parliamo così un po' metafisicamente di energia, sì, risentono della stessa energia, più o meno dello stesso periodo. Perfetto. L'abbiamo parlato di questa astronave, cosa dici, la vogliamo ascoltare? Io sarei, se volete suonare dal vivo. Beh, se non metti astronave, dici adesso. Perché astronave base volevo poi collegarmi a Maurizio, esatto. Io è quella che mi ha proprio fatto dire questo qua è migliorato, cioè è proprio andato oltre. E dove questo qua sarei io? Questo qua certo. È lui, scusate. Oh, questo ancora qui sta. Insomma, abbiamo capito, Sergio, che ti piace lo spazio in senso Marte, l'astronave. Voglia di evasione. l'ascoltiamo. Altitude, velocity, light. Flight controllers here looking very carefully at the situation. 15 forward. Roger, in Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. C'è una voce, di colpo la tua voce qui non la ricevo più. Sperduto e solo, no aria, no luce. Trasmetto un messaggio che tu forse nemmeno riceverai, forse nemmeno capirai, forse per cancellando anche me. Dici, mi dici, quei giorni sorrisi io no, non li ritrovo e non ti accorgi che io mi son perso in un altro universo. Potresti salvarmi ma tu forse nemmeno lo vuoi. Anche me. Astronave base, tiratevi su, più giù di così non si può. Astronave base, cercatemi aiuto, mi sono perduto qua giù. Aria esaurita, risposta mancata, io soffoco e non so perché. Qui è la mia vita, missione incompiuta, per ogni domanda che tu forse nemmeno capirai, forse nemmeno ti farai, forse per cancellerai, cancellando anche me. Astronave base, tiratevi su, più giù di così non si può. Astronave base, cercatemi aiuto, mi sono perduto qua giù. Astronave base, tiratevi su, più giù di così non si può. Astronave base, cercate, cercate, d'estate mi perdo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Insomma, è già passata un'ora in compagnia di Sergio Limbo e di Alessandro Maiani qui a Blu Radio Veneto. Questa è la voce di Agostino Spallore che assieme a Maurizio Calzavara, come di consueto il giovedì, cercano di regalarvi della bella musica, non tanto suonata da noi, ma quanto dagli artisti che ci vengono a trovare. Questa sera abbiamo questo Spinning Jenny. Perché l'hai chiamato così questo disco, Sergio? Spinning Jenny è la traduzione letterale è filatoio meccanico. Spinning Jenny è la prima macchina, appunto, un primo filatoio automatico che è un po' un simbolo perché diede il via alla rivoluzione industriale. E si chiama così perché la figlia di quello che l'ha inventato si chiamava Jenny. E siccome Jenny è un nome che nella mia vita ha un significato particolare, allora... Ecco. È tutto un giro, insomma. Rivoluzione Jenny tac, e ho dovuto, certo, assolutamente che la tua fantasia è ampia. Vabbè, insomma, colpi di genio. Adesso parliamo del pezzo Astronave Base. Voglio sapere da Alessandro le due voci iniziali, dove sono nate, perché queste voci d'astronave, da astronauta. Allora, e queste qua è una delle idee mie, così, che mi vengono e gliel'ho proprio propinata immediatamente, gli è piaciuta subito. E in realtà, appunto, perché Alessandro nel suo piccolo è anche bravino, Cioè ho praticamente rubato queste registrazioni, già rubato no, perché insomma sono di pubblico dominio in realtà, e purtroppo non è una storia molto allegra, però si ricollega un po' a quello che scrive Sergio nella canzone. Cioè, comunque Astronave Base è una richiesta d'aiuto, no, di mancanza d'aria, di, cioè, della serie siamo quassù e siamo abbandonati, ecco, cioè, e quindi questa qui erano voci degli astronauti del Columbia, che poi ha fatto una brutta fine. Certo. E quindi niente, ho preso queste voci proprio della serie stiamo comunicando con voi Houston, così via, e poi abbiamo dopo un po' non un si sente, no, non è quella dell'Apollo 13, era troppo banale quella. E dopo un po' non si sente più niente, sì, e quindi abbiamo perso il contatto, diciamo. Io ho scritto che secondo me, noi della redazione, può essere una ballad vera e propria, questa, una ballad nel versante pop, però fondamentalmente è una ballad. Non so se siete d'accordo con questa definizione. Sì, sì, penso che perché sì. La costruzione da ballad, poi c'è il ritornello molto accattivante, però è una costruzione da ballad, sì. Non è semplice, no. È un po' complicata, sì. Anche complicata farla, secondo me. Sì, forse la particolarità, vabbè, la ritmica dicevi la chitarra del giro chitarristico, dell'input chitarristico. Cioè, secondo me diciamo che questa è una canzone che non ha dal punto di vista tecnico non ha dei difetti, cioè ha una costruzione melodica e di struttura, come dici tu, che è centrata, poi ha un arrangiamento che valorizza, quindi comunque che dà un'atmosfera che sorregge l'idea di Sergio. Hai messo fatica per fare una cosa? No, assolutamente. E questo è il bello. Cioè, comunque quando sono così, secondo me escono bene subito. Infatti mi ricordo che questa fu una delle prime che arrangiai. Sì, è nata e andava già bene, cioè andava proprio anche già con gli strumenti, perché di prima fuori onda parlavamo di come nascono, sì, anche gli arrangiamenti, no? Che non c'è più, o comunque... È interessante, una cosa ha detto molto interessante Alessandro, adesso se la vuoi spiegare anche ai non addetti, sì. È molto interessante. No, nel senso che ovviamente... Tanti anni fa si usava andare in studio con la band, mettersi tutti in una stanza, suonare e dal primo momento che si era provato andava tutto bene, ok, incidiamo, è buona la prima o la seconda, comunque si suonava tutti insieme. Adesso i tempi da un po' sono cambiati, siamo andati nella terza era della registrazione, perché siamo passati dalla seconda quando hanno cominciato con i registratori multitraccia, adesso siamo nell'era del computer già da anni. E comunque si registra sempre meno tutti insieme, si registra quasi sempre separatamente. Poi nel caso di un gruppo si può ancora fare, nel caso di un cantautore che comunque richiede musicisti, ma che sono comunque turnisti, non sono parte di una sua band, si fa un primo provino. Quindi il mio lavoro iniziale è quello di sentire lui con la chitarra e la voce e intorno mettere delle cose fatte con tastiere, finte, batterie campionate... Insomma, strumenti elettronici che però danno un'idea di quello che può venire. A quel punto lo sente lui e mi dice bello, oppure mi dice ma qua secondo me si può fare diverso, si sistema eventualmente e poi si chiamano i musicisti che vengono a registrare le parti che ho scritto io. E poi si confeziona tutto dopo, insomma, quindi è a più fasi, diciamo. Sergio, quando sei da solo, che ne so, che hai tempo libero, insomma, ti viene voglia di ascoltare musica, cosa ascolti? Premettendo che ultimamente il tempo libero non ne hai. Non tanto, però fortunatamente. E dunque, i miei ascolti sono più che altro spostati sulla musica straniera, Smashing Pumpkins, ah, però. E Radiohead in primis, poi anche un po' di Britpop, non so, i Travis, gruppi del genere, insomma. Per quanto riguarda gli italiani, invece, mi piace molto, vabbè, oltre Guccini, però Guccini ormai sinceramente non lo ascolto più perché sapendo a memoria tutte le canzoni. Ma c'è una canzone che ti piace? Di Guccini? Mm. Tutte? Dovrei pensarci, ma veramente tante, mm-hmm. veramente tante. E, invece sto scoprendo altri cantautori, soprattutto tipo Paolo Conte. Mi piace molto comprare CD vecchi. Per esempio il primo di Enrico Ruggeri, ecco, trovo che dove c'è polvere, bravissimo. Ecco, ci sono dei cantautori o dei cantanti, insomma, che ascoltando adesso i lavori che hanno fatto anche 30 anni fa dici accidenti, questa sì che è bomba. Non sempre tutti sono rimasti, sì. Però insomma, questi sono un po' i miei gusti. E invece Alessandro? Che domanda. Qua è un po' difficile perché io che ascolto molto musica per il momento. È complicata sta domanda. Perché col fatto che la faccio tutto il giorno la musica, no? E mi piace ascoltare anche i lavori che faccio io. Quindi comunque mi piace e poi è anche un modo per risentire quello che ho fatto. La conosci? Mi sembra di è questa, no, perché io la ricordavo dal vivo, che è diversa. Questa è proprio la versione. Ma qui tutto l'album ci sono dei pezzi. Cioè, questo è strepitoso. Appena post Decibel. Decibel è un gruppo notevolissimo. Assolutamente. Ma in quest'album, questa chiaramente forse è vero, spicca. Però anche gli altri pezzi meno famosi sono. Cioè, lui era ripresentati oggi, sì, sì. Avrebbero. Adesso non so se sì, ripresentati oggi nel modo di suonare di adesso di Enrico, sì, Ruggeri, certo. Non lo so. No, io credo, vabbè, è un'opinione, che alcuni pezzi di questo album riproposti e risuonati ovviamente con strumentazioni e arrangiamenti moderni. Vabbè, può darsi che il discorso possa cambiare, sì. possa essere diligentemente sufficiente come una volta per dire. Sì. Però Alessandro, ripercorrendo ti ho interrotto così. Alessandro, scusami. No, ma fa niente, no, anche perché non avevo veramente molto da dire, perché no, veramente ho talmente tanta musica nella vita che faccio fatica anche a dire l'ascolto per il mio gusto, quindi quando l'ascolto perché mi crea un momento, cioè tipo non so, vado a correre e allora ho voglia di sentire una musica carica. Quella di Rocky, scusami. Bravo. Esatto. Eye of the Tiger. No, però non ho sinceramente, sono un grandissimo appassionato dei Queen, questo devo dirlo, e quindi vabbè, quella è un po' la mia bibbia musicale, però se devo dirti che li ascolto assiduamente, no, perché mi piace un po' anche suonarli, cantarli, eccoli qua. Questo per esempio è tanto così, per dire un pezzettino. Un pezzettino dei Queen, anche se non è uno dei miei preferiti, però è cos'è ovviamente uno dei più famosi. Beh, vabbè, no, dai, stiamo qua una sera anche con me, io ne ho. Forse Who Wants to Live Forever, Bohemian Rhapsody, basta, Love basta, of basta, My basta, Life. È esaurito il tempo nostro. E poi dopo i Queen? Dopo i Queen chi viene? Ma vengono quei gruppi, ecco, bravo. Te la suono anche dal vivo, guarda. Dai, questa sentiamo, vuoi. Dai. Canti tu? Fa così, lascia no? Stare. No, comunque dopo vengono questi gruppi rock, però che vengono dagli anni 80. Per esempio mi piacciono tantissimo i Tears for Fears e i Simple Minds. E quindi io sono già, vedi, su un target un po' diverso da Sergio. Il cantautore già lo apprezzo meno. Che cavolo. Cioè i Tears for Fears, poi vabbè. Però secondo me qua viene fuori l'arrangiatore un po', sì. Perché loro secondo me hanno dei suoni che sono inimitabili dopo appunto 30 anni. io non, cioè, faccio fatica a trovare della roba così adesso. Quindi c'è la tua caratteristica lavorativa dell'arrangiatore che preme notevolmente, sì, sulla scelta. Sì, sono un po' deformato professionalmente. Leggermente, cioè, purtroppo, sì. Quando sento un bel suono, un bel arrangiamento, poi vabbè, ovviamente faccio caso anche al testo. Sì, certo, certo. E Simple Mind, come mai Simple Mind? Gli ultimi Simple Mind sono scomparsi, ma i primi Simple Mind avevano... ma erano molto new wave i primi Simple Mind. Sì, ma guarda, Simple Mind secondo me se la sono giocata con gli U2 per un po'. Sì. E a me piacevano più Simple Minds. Sì. Poi dopo, vabbè... Poi ha vinto Bono e Soci. Certo, ha vinto loro perché hanno fatto effettivamente dei pezzi che sono rimasti nella storia, mentre magari Simple Minds ne hanno due, sì, forse. E Jimmy Cappell si è un po' perso. Però se tu senti un disco dei Simple Minds, cioè io sinceramente ne ho tre o quattro che... cioè dall'inizio alla fine proprio dici, vabbè... E così anche Tears for Fears. Certo, certo. Poi vabbè... ce ne sono anche un discorso lungo. È un discorso molto lungo, però questi più o meno sono i miei riferimenti sonori e compositivi. Anch'io sono molto portato sull'estero e la lingua, secondo me, la lingua inglese è inimitabile. A livello musicale, sì, credo sia. Sì. Cioè, tanti dicono che anche l'italiano comunque... Beh, però... Sergio per esempio è bravo a fare l'italiano. No, è vero, però certo. Francamente è molto più difficile. Ma perché è difficile, Sergio? Come metrica o difficile come cucire i pezzi? Sull'italiano è più facile scucire i pezzi sull'inglese, allora. Ma guarda, no. Un po' di tempo fa c'era questa questione dell'inglese come lingua musicale. Io, da insomma modestissimo cantatore, credo che una delle difficoltà sia che in italiano si capisce quello che dici. È quello il problema. E quindi non puoi dire, non sparare può... delle cose fuori del mondo. Del resto, se gran parte della musica italiana ruota intorno a tre concetti e tre parole, un motivo c'è. Cioè, è difficile quando senti costruendo una frase in italiano, è difficile riuscire a dire qualcosa che sia un pelo originale, poco, e che sia al tempo stesso una parola poetica. È passato il tempo delle rime baciate anche in italiano. È passato il tempo delle rime baciate, sì, sì, però. Comunque resta un po', secondo me, questo problema, ecco. Poi secondo me gran parte del fascino della lingua inglese è dato da quello. Ma ti viene voglia di cantare qualcosa in inglese? Ti varrebbe la voglia? Io, diciamo, siccome affianco una modesta attività di cover, canto in inglese e mi piace ed è bello. Cos'è che fai di cover? Sono curioso. Sì. Beh, No, ammetto che questo no. Sempre Smashing Pumpkins oppure Pearl Jam, per esempio, oppure sì, abbiamo provato anche a fare qualcosa di dei Travis e degli Oasis. Io sono molto curioso, come Agostino, di Smashing Pumpkins, che cosa? Dunque, il titolo, aspetta che... Disarm. Ah, Disarm, sì. Io sono negato coi titoli. Disarm. Però Disarm me lo ricordo. Li hai visti recentemente? Sì. No, non mi ha telefonato. Perché sai, doveva passare. È rimasto solo lui, praticamente. Sì, infatti, diciamo, i miei ascolti degli Smashing Pumpkins in realtà si fermano un po' ad Avador. Quello dopo, Amazing Dream, oppure il doppio mitico, sì. Melon Collin. No, Melon Collin è un capolavoro sotto. I miei si fermano. Si fermano ad Avador. Quindi precedenti fino ad Avador. Melon Collin è un capolavoro assoluto. È inarrivabile. Per chi piace, però, a me che piace, è veramente il CD. Il disco è il CD. Esatto. Questa è Avador. Con cui secondo me concludono la parabola, esatto. E poi lui si è un po' perso. Lui si è un po' perso. Ha fatto delle altre cose, quali problemi. Però è una bella voce sempre. Sì, una voce, no, unica, inimitabile. A me piace anche compositivamente sia il suo modo di suonare che anche i testi. Sì. Piace, ecco. Perché mi piace leggere e tradurre o trovare la traduzione di testi inglesi dei gruppi che mi piacciono. In molti casi, se mi piace il testo, mi piace anche il gruppo e viceversa. Insomma, gli Smashing Pumpkins trovo che abbiano una chimia Del resto lui non era, è che era grande, è sempre stato grande, anche soprattutto nel disco che ha fatto dei recenti in acustico, era molto molto interessante, anche se non è molto capito. È un tipo particolare, quello sì. È un tipo particolare che probabilmente, adesso dire che non raggiungerà il grande pubblico, no, perché no, questo l'ha già fatto. Però non è, evidentemente non ha quel taglio così pop da sì, essere un universale. Non è amato, ecco. Assoluto, ecco. O è amato o odiato. Sì, sì, ha una ampissima nicchia. Esattamente. Occhi su cui si confronta. Adesso però vogliamo sentire una cover di Sergio Limbo. Il mio cantautore preferito. Ah, una cover di Sergio Limbo? O Sergio Limbo che fa una cover? No, una cover di Sergio Limbo. Che... magari dall'album Spinning Jenny. Sì, vi faccio sentire proprio Per Jenny. Ecco, te pareva. Così tagliamo la testa al toro. Così la salutiamo. Con, ciao Jenny. Ciao Jenny. Stai bene, riposati, che adesso arrivo. mi preparo, prendo l'acustica, posso? Certo, sì. Certo. Vuoi dire due parole tu, Alessandro, finché lui si prepara su questa canzone? Sì, posso parlare sempre del mio lavoro. Certo, poi per la canzone ne parliamo dopo. Sì, no, della canzone ne parlerà ovviamente Sergio. Intanto vi dico che qua sono in ferie perché mi ha detto no, qui non suonare il piano perché non mi piace. Ah, ecco. No, non è vero. Cioè, alcune canzoni le fa da solo con la chitarra. Però questa qui in particolare mi è piaciuta, per chi avrà il piacere di sentire il disco, mi è piaciuto arrangiare gli archi di questa canzone, che è un'altra delle mie grandi passioni, cioè pianoforte e archi, e qua mi sono trovato a essere soddisfatto e contento di della cosa che stavamo facendo. Punto. Puoi dire qualcosa tu se vuoi o suonare. Volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia mamma. Che potresti uscire dalla grotta, grazie. Volevo fare gli auguri di buon compleanno alla mia mamma, che oggi compie gli anni. È vero, eh? Sì, è vero. La mamma si chiama? Jenny. No. Ah, no. Paola. Tanti auguri. Ciao Paola, auguri anche da tutta Blu Radio Veneto. Auguri. Allora, ci ascoltiamo questa canzone che, mio modesto parere, è bellissima. Mi è piaciuta veramente tantissimo. Per Jenny. Blu Radio Veneto. Quando non trovo le parole mentre ti scrivo una canzone, quando non posso fare a meno di stupirmi del tuo stupore, quando ogni tuo sorriso è una prova elementare che c'è un Dio che ti vuole, io quasi mi innamoro, amore. Quando non so leggere un silenzio, o quando cerco il tuo consenso, quando proprio non mi capisci, però già dici ciò che penso, quando volere il tuo volere, da desiderio innaturale, diventa la mia realizzazione. E allora io ti cerco, amore. E insegnami a distinguere i colori, io sono stanco di parole. Portami a giocare nella neve, alla vigilia di Natale. E dimmi che sei mia, sia che la sorte resti buona, sia che crolli anche la luna, dimmi che sei mia. Quando la gioia arriva al cuore, o in una lacrima di dolore, dimmi che sei mia. Quando non trovo le parole per la paura che non siano nuove, quando prometto grandi imprese come nel gesto più banale, quando prendo le tue mani e le porto sul mio cuore, quando la gioia può far male, è solo te che voglio, amore. Thank you. e dimmi che sei mia. Nella ricchezza di un sorriso o nel bisogno di un aiuto, dimmi che sei mia. Sia che la sorte resti buona, sia che crolli anche la luna, dimmi che sei mia. Quando la gioia arriva al cuore o in una lacrima di dolore, dimmi che sei mia. E che sei tu la mia salvezza e la mia malattia per sempre mia. Che dire, io mi emoziono ascoltando questa canzone, come ti dicevo all'inizio che non ti avevo detto il titolo, ma insomma questa canzone l'ho ascoltata veramente tantissime volte, mi è piaciuta veramente subito, immediatamente, vi avevo detto che ad Alessandro girava continuamente nel lettore. Ne approfitto anche per salutare un'ascoltatrice che sta vivendo un'emozione fortissima perché c'è il mare davanti a sé, quindi è davanti al mare, insomma, e ci sta ascoltando. La salutiamo caramente, in provincia di Venezia, si chiama Maura, gli mandiamo un abbraccio e un bacione. Ciao Maura, ciao. E questa canzone è assolutamente cantautorale, proprio da cantautore, nel senso positivo del termine. A me ricordava qualcosina a larghe vedute, qualcosina, ripeto, sempre del De Gregori inizio carriera, tra Alice e il disco dopo, dove ci venite cercando un nuovo Egitto. È molto cantautorale, quindi sei in questa dimensione. Stavolta sei tipico, non atipico. Sì. Devo dire, a livello di testo, questa composizione, chiaramente si capisce che sì, è sentita. Canzone d'amore, certo. Ecco, io non è che ami particolarmente scrivere le canzoni d'amore, un po' perché le canzoni d'amore o sono infelici e quindi vengono fuori abbastanza bene, no? Abbastanza, cioè non se tu vero. Sei stato lasciato, sì, allora altro che 16 canzoni, fai 52, no? Esattamente. Però se tu sei felice, è più difficile. Ma perché puoi esprimere la tua felicità in una canzone, no? In questo caso per me è stato quasi faticoso tirare fuori il positivo, perché sono fatto io così, non lo so, però è più difficile, cioè, quando sei felice hai la pancia piena. E quindi no. E quindi, ecco, in questo caso io è stato un esercizio cercare dentro di sé di dire in modo non troppo banale, poi non so se ci sono riuscito, ma non troppo banale la potenza del sentimento che provavo, insomma, che provo. No, ovviamente il pezzo era molto bello ed è molto bello, e poi in questa dimensione proprio acustica dà un certo risalto, doveva essere così. Il pianoforte, giustamente Alessandro, no, allora ho fatto bene, hai no? Fatto bene, e allora diciamo, hai fatto Alessandro, non c'entravo niente. Hai fatto bene. Senti, io, se mi consentite, sono 10:30, le 22:30 in questo momento, volevo parlare un attimino di te Alessandro, di quello che fai al di là della produzione con Sergio eccetera eccetera, ma con tutti gli artisti che hai, cioè quando faccio cose serie, quando faccio cose serie. Perché so che tu hai fatto qualcosa per i terremotati, io sì. L'ho postato già diverse volte nel mio Facebook, perché hai fatto una canzone, cioè avete fatto perché un team di 3 persone, una canzone bellissima. Grazie. L'idea onestamente è venuta da Davide Lucchini. E io ho contribuito per la parte musicale, Luana è stata invitata da interprete, quindi diciamo che ci siamo, l'idea è partita da Davide, poi io ho confezionato una canzone e abbiamo deciso di inserire anche Luana Bellucci, che doveva essere qui questa sera, ma magari verrà un'altra volta. Sì, adesso le diamo, vabbè, lascia stare. bisogna un pochino incitarla sta ragazza adesso, se ci sta ascoltando, lo so. Sì? Sì, so che ci sta ascoltando, ecco. Quindi Luana, 2 schiaffi subito, 1, 2 e la prossima volta vieni, ok? Ecco. Ciao Luana, un bacione, un abbraccio. La vogliamo ascoltare questa canzone? Ascoltiamola. E poi ne parliamo magari. È praticamente dedicata interamente ai terremotati dell'Emilia Romagna. quasi l'alba e tu non sei qui con me. La terra trema ed io non so perché. Non riesco a chiudere gli occhi per dormire. Non riesco a chiudere gli occhi per pensare. E la mia casa è là, sembra chiedermi dov'è che andiamo. E queste lacrime dov'è che sfoceranno, in quale mare andranno mai? Vorrei abbracciare la terra e dirle che se ne stia calma, che qui tutto quel che c'è è nato dalle mani di questi uomini. Ferma il tempo, ferma tutta questa paura, amore mio. Ferma il vento, dimmi ancora che domani sarai qui con me. Tutto quello che non ti ho detto mai, ora pesa come un macigno, proprio quelle cose che rimangono qua. Tra le tende la notte si raccontano storie e favole per resistere, per stare su. Ma c'è una luce forte nella notte, c'è una speranza dove sembra esserci solamente buio e polvere. Ferma il tempo, ferma il tempo, ferma tutta questa paura, amore mio. Sarai qui con me. Radio Sera. Blu Radio Sera. Io devo ringraziare Armando che me l'ha fatta scoprire per caso, sinceramente, perché non ti avevo ancora sentito, Alessandro. Però la prima sensazione è stata quella di averla per le doc, insomma, pensando all'intento di questa canzone, poi queste parole così toccanti, poi Davide e anche Luana sono strepitosi e tu al pianoforte. Poi ho visto il video, bello, cioè tra virgolette bello, insomma, consentimi l'espressione, queste immagini drammatiche del terremoto, sì. E voi invece in studio che suonate, che cantate, Luana poi è splendida assieme a Davide, come dicevo, insomma. Come mai questa voglia di fare un pensiero nato da voi tre, insomma? No, il pensiero, come dicevo prima, è nato da Davide, in realtà, il quale è un altro dei miei artisti attualmente in produzione, e mi ha detto: guarda, io ho st'idea per i terremotati, siccome mi è venuta questa ispirazione, se ti sembra bella la facciamo. E poi io ho sviluppato la musica sul suo testo, e poi dopo c'è stata l'idea di inserire anche una terza persona, che è una voce femminile. Luana ovviamente è una, secondo me, delle voci migliori che abbiamo nel nostro, nella nostra squadra, quindi abbiamo chiesto a lei, lei è stata molto contenta e abbiamo fatto tra l'altro questa cosa alla vecchia maniera. Questa cosa, quelle immagini che avete visto su YouTube, che abbiamo fatto assolutamente noi, proprio con la telecamera a spalla, siamo noi in studio il giorno unico che abbiamo inciso, quindi abbiamo fatto tutto in un giorno, e come si faceva una volta, quindi proviamo, vediamo come va, incidiamo il piano e poi dopo cantiamo tutti insieme, e quindi insomma è stata bella anche la giornata. Sì, e poi è uscito un risultato bellissimo, insomma, poi... Appunto, se si pensa all'assieme delle cose, l'emozione ti nasce e ti viene spontanea, insomma. Io ogni tanto me la risento perché proprio mi crea questa emozione, insomma, mi piace risentire. Onore al merito a voi tre, insomma, per grazie. Quello che avete fatto. Allora, Davide prossimamente sarà nei nostri studi, magari poi ci sentiremo, ve lo anticipo perché mi ha già dato l'ok e quindi l'avremo qui in studio anche lui. Magari ci sarà di nuovo tu, penso. Beh, con Davide vediamo, perché lui è abbastanza autonomo però se posso, volentieri. E Luana invece... Luana bisogna che la spingiamo. Adesso la andiamo a prendere, se ci sta ascoltando la prossima volta la prendiamo su con la forza. Luana Bellucci, che poi lei fa pop praticamente, giusto? Sì, lei ha un disco che è un pochino più datato rispetto agli altri, è un disco del 2010 con pochi brani in realtà. Lei poi lavoriamo anche per fare altre cose, cioè lei è una cantante, un interprete, quindi canta anche molto cover, fa molte serate di altro tipo, quindi il progetto inedito, diciamo, per lei rispetto per esempio a un Sergio che ha il progetto originali e poi qualche cover, lei invece è molto più un interprete e poi abbiamo fatto anche un disco. Allora, nella tua etichetta, Alessandro, c'è i progetti come quello di Sergio, quello di Davide, ci sono altri progetti anche nella tua etichetta? Sì, no, guarda, essendo una realtà piccola la mia e comunque facendo fatica, perché è inutile dire che siamo, cioè comunque il mercato è in difficoltà in generale, figuriamoci per... Però Ale, puoi dirlo che dopo la Warner ci sei tu, sì, e poi dopo... c'è la Sony, questo sì. Dopo di me c'è la Sony. Sì, dopo si vede, cioè, tu sei tra la Sony, cioè, sì, questa sì, è sì. Realtà, questo si può dire. Con la Emmy non esiste più perché è stata venduta. L'ho comprata io e poi l'ho uccisa. No, in realtà no, è difficoltà e quindi... Ovviamente io sono una piccola realtà e non si può fare 20 produzioni alla volta, un po' perché ci piace seguirle, quindi comunque non lasciare tutto così, e poi perché non ha proprio senso, perché ti fai concorrenza da solo, cioè io quei pochi canali che ho li voglio usare per poche persone, poi se non succede niente ovviamente la produzione dopo un po' muore, questa è la realtà. Cioè non, è per quello che prima, non mi ricordo se eravamo in onda o fuori onda, parlavamo anche della capacità dell'artista magari di inventarsi un mini tour, di fare qualcosa anche autonomamente, perché l'etichetta da sola fa... Non può supportare tutto. No, non può, perché comunque il lavoro è diverso. Quindi non puoi fare sia il produttore sia il tour manager, il booking, l'ufficio stampa, cioè sono tutte cose che hanno dei costi ovviamente, certo, quindi certamente. Se tu hai un budget di tot, allora puoi permettertelo, ma siccome non stiamo parlando di questa realtà, facciamo quel che possiamo. È chiaro. Bene, sono le 22.40, il tempo passa, come avete capito, non chiudiamo qui, ma anzi andiamo, sarebbe già terminato lo spazio a disposizione vostro, ma questa sera non essendoci Alberto, anzi lo comunico ufficialmente, Alberto Prisco, il nostro direttore artistico che di solito giovedì sera c'è, ma questo mese anche lui è andato in ferie, quindi ha diritto anche lui a un buon periodo di ferie, visto anche tutte le difficoltà, il lavoro, la fatica per... provare tutti questi artisti che succedono qui nei nostri live ogni settimana. Pensa, arriviamo quasi a 4-5 live la settimana, quindi sai, è un continuo richiedere informazioni, manager, artisti e quant'altro, e quindi è giusto che anche lui, quindi per chi ama la musica rock e la classifica di Blu Radio Veneto, appunto gestita dal nostro direttore artistico Alberto Prisco, questa sera non è possibile, ma c'è Sergio Limbo, però c'è Sergio Limbo, buttatelo via, c'è Alessandro e Sergio, quindi live sempre in ogni caso, assolutamente, certo che sì, ne facciamo una dal live, sì, dai, facciamo Sergio, qualcosa, dai. Cosa ci fai ascoltare, c'è questa, ci piccoliamo, dai. Allora, questa qui è un brano, andiamo a pescare un po' nella produzione precedente questo album. Si intitola Piccola Così ed è dell'album Dal Purgatorio di Via Misa. che è dell'anno che ora non mi ricordo, ma comunque parliamo di un sacco di tempo fa. E, io avrei mi 2001. Vado in postazione 2001. Tu vai in postazione. Vado in postazione. Che si chiama la canzone? Si intitola Piccola così. Piccola così, fa parte dei lavori precedenti, abbiamo detto. Vi ricordo, questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino Spolaore, che assieme a Maurizio Calzavara, anche questo giovedì, con la musica dal vivo, con Spinning Jenny. Questo è il titolo del disco splendido di Sergio Limbo, con la produzione, la supervisione, l'arrangiamento, insomma, di Alessandro Magnani, che abbiamo qui questa sera. Parola più cattiva, sono un'amante distratta che non ti ha aspettato, un'amica che ti ha deluso, e sono piccola così. Sono piccola così. Sono la tua vanità che poi è una piccola cosa, la tua amante più vogliosa. Sono la tua innocenza che hai perso per sbaglio o per una scelta. Sono un amante di quelle che non hai accettato, il peccato non voluto. E sono piccola così. E sono piccola così. Perché non puoi dimenticare? Perché non puoi dimenticare? E sono gioco del falsetto. A me piace molto il falsetto. Come mai hai messo il falsetto, Sergio, in questo pezzo? Che era un po' atipico, è un po' andata un stop and go, come che Alessandro avesse una batteria, fermava e ripartiva, fermava e ripartiva. Questo è un pezzo che secondo me più di altri risente un po' dei miei ascolti un po' di di Radiohead, beh, sì, e cose esattamente del genere, un po' secondo me sì, un po' rockettari, e quindi è il gioco del falsetto. Ci sta, questo. E devo dire che è stato prima dei Negramaro, che sia chiaro. No, insomma, sì. Che tu hai ancora tutti i capelli, invece esatto. Quello dei Negramaro sottolineo no. Due volte questo. Sì, no, è nato un po' così, quindi ci stava. Sì, rispetto al disco di adesso che abbiamo sentito, quello nuovo appena uscito, sì. È un po' lontano da quelle atmosfere, sicuramente. Sì, forse è un po' più... guarda un po' più anglofono, sì, molto molto più, ecco. Esterofilo, esatto, ecco, esterofilo, possiamo dire questo. Beh, una cosa positiva, sono l'evoluzione della specie musicale tua. Ma sì, poi penso che le cose possano in realtà convivere, cioè, certo, certo, come no, c'è nulla che, no. E come l'ha presa Alessandro? Non so se vi siete già messi d'accordo prima di arrivare qua a fare sto pezzo, o è una cosa spontanea subito? No, beh, questo è un po' lo fate qualche volta, quindi... Sì, lo fate spesso questo. Sì, insomma, lo facciamo. Sì, non viene mai uguale, ma quasi tutti. Cioè, nel senso, sì, ma come il discorso che facevi è prima. È colpa mia, poi. Perché è colpa tua? Ma sì, perché io suono molto più istintivamente. Adesso in questo momento lei suonato proprio istintivo. Sì, sì, è difficile che io faccia le stesse cose, tranne le cose obbligate, ma magari sono le note che sono... Però è più lui quello che porta, no? Cioè io sono quello che cerca di stargli dietro e poi magari mi viene un'idea e la faccio un po' di... Diversa. Sì, perché questo era un pezzo melodico, secondo me. Non aveva una melodia vera e propria. Melodia sì, però era, la costruivi, la allargavi, poi la restringevi a seconda come ti andava. Sì, sostanzialmente questa è un po' la genesi del la pezzo. Genesi del pezzo, beh, esattamente. Cercare su una base armonica abbastanza semplice di fare, di dare, esatto, un tocco un po' diverso, esatto, un po' altalenante. Poi devo dire che per quanto riguarda il discorso live, quando suono con Alessandro, c'è un'interazione forte, soprattutto voce e tastiera, quindi ci carichiamo un po' a vicenda. Bene, bene, tipo quando seguiamo. Faccio così, io faccio ta, ta, ta, ta. Ma siete sempre solo voi due in studio quando vi trovate, o c'è qualcun altro che... Beh, abbiamo le ragazze, sì, le cieche, i gruppi sono gruppi, un centinaio, sì, sì. Cambiano, ne abbiamo tutti un po'. I giorni. No, ci troviamo io e lui. Poi la scansione del tempo più o meno è questa: la prima mezz'ora serissima, Svizzera, oserei, sì, dire. Sì, Svizzera. Poi stappiamo la prima birra, esatto. poi va, e vabbè, passa il whisky, poi arriva il momento di... Ma chi è il più pignolo? Ah, questa è una bella domanda. Diciamo che io... Boh. Dipende... Boh, ma forse... si dice bu o bo, secondo voi? Boh, vero? Dipende. Perché se c'è qualcuno che dice bu anche... Se sei se alle dipende. Spalle di uno... No, però quello è bu, esatto. È vero. Allora no. Di qualche parte d'Italia. Credo che ci diamo un po' il cambio per rispondere alla domanda. No, sì. nel senso che a volte... No, sì, beh, quello non ci diamo il cambio, lo siamo tutti e due. Quando siamo almeno... Sto pensando a un paio di episodi, insomma, in cui magari uno dei due dice: ma no, dai, lasciamo perdere, va bene così, e l'altro ci sta più a spaccare il capello. Poi invece, magari la volta dopo, o per un altro pezzo, succede il contrario. Sì, sì, sono d'accordo. Può darsi che sia, sì, così. Sì, perché nessuno dei due è pignolo di natura, quindi... Sì. Però ci piacciono le cose. E questo pezzo, quando è stato inciso, chi era il pignolo dei due? Ah, qua è lunga, però qua è quanto tempo è passato? 11 anni. Qui è passato un po' di tempo. Questa qui, in realtà, se non ricordo male, la genesi del 2001. Del 2001. Qui avevamo fatto una sessione precedente di prove, sì, col gruppo. Esatto. E quindi, in questo senso, c'è stato un confronto a più voci. Mm. E il pezzo si è costruito un po' così. E questo è un pezzo da gruppo, secondo me. No, sì, o no? Sì. Ma lo sono anche altri, diciamo che sono cambiati i metodi. Come dicevo prima, eravamo nella seconda era della registrazione. Quindi c'erano le multipiste. Quindi c'era il multipista, però quindi... comunque c'era ancora la tendenza di arrivare con le idee chiare, di suonare. Invece adesso magari c'è il computer già che ti dà un'idea. Certo, al tempo, è vero, avevamo fatto le prove e poi siamo andati in studio con tutti. Devo dire la verità, secondo me, e qui è un parere personale, la dimensione ideale è quella di avere un gruppo. Lo so, però si parlava della difficoltà anche di però non sono del tutto d'accordo, Sergio. No. Ma guarda, secondo perché... me, e di fatto poi anche quando ci troviamo con i turnisti, anche loro, cioè almeno io personalmente spingo sempre a che ognuno cerchi di interpretare un po' a suo modo, e secondo me... Però io ti garantisco che il risultato di questo disco sarebbe stato diverso, perché quando hai un gruppo ovviamente tu devi registrare quello che fate voi, quindi l'arrangiatore già diventa meno... No, non necessariamente. Vabbè, allora... Dai, ci mettiamo a discutere qua, siamo in onda, cioè, ne parliamo no, dopo. Adesso dobbiamo finire. Va bene, ascoltiamo ancora qualcosina, volete dal disco o volete... Vivo? Ci riposiamo, facciamo... Ti facciamo sentire un pezzo dal sembra disco. Sembra, stiamo lavorando un po' troppo stasera, cioè, è meglio riposarsi un po'. Chi è quest'uomo caduto? Ma questo certo. Forse è il brano focale, anche se come Genesi non è stato di primo... Però è un po' il brano su cui ruota molte tematiche presenti in Spinning Jenny, e, che vengono riprese in altro modo. Questo è un brano, secondo me, piuttosto crudo, e poi ognuno ci vede quello che vuole. Per me è un'esperienza di vita molto forte. Insomma. L'ascoltiamo. L'uomo caduto. Un uomo è caduto, era talmente alto e grosso che più di uno pensava gli si dovesse sparare addosso per farlo fermare, ma è caduto senza parlare e senza espressione, è inciampato, scivolato, quelli che l'hanno visto hanno pensato magari è svenuto. E così è capitato come uno scherzo riuscito male e di basso profilo, come una cartella esattoriale, come un destino che lo sappiamo tutti e non è raro, è cinico e quasi sempre baro. E mentre il pontefice pontificava, il vigile vigilava, il barista barava ad un tavolo da gioco allestito in maniera occasionale fra i 2640 pazienti in attesa di un dottore in quel corridoio d'ospedale. Un uomo è caduto, questione di un minuto, nessuna frase da citare, nemmeno il tempo di un saluto, difficile da immaginare, come una pacca sulle spalle, una scommessa che hai perduto. Ma i sogni, le mani, le parole, le vacanze in Egitto per Natale. Come vorrei salvarti, come vorrei capirti, come vorrei incontrarti, come vorrei... Un uomo è caduto. Mentre il servizio di informazione nazionale si era perduto dietro a una nuova letterina finita male per problemi di cocaina e per fermare il panico dilagante, l'autorità competente ha informato ogni parente. Il presidente del consiglio ha indetto un referendum per avvisare la moglie, per rintracciare il figlio, ma intanto l'uomo era già steso al suolo, niente più tempo per pensare, la montagna oppure il mare, per quest'anno niente Natale, niente più Pasqua, a Ferragosto moglie mia, non sarò qui al mio posto, lo sai io non vorrei andar via, ma devo dire così sia. Come vorrei salvarti, come vorrei capire, caduto, un uomo è caduto, un uomo è caduto. Radio. SMS 346 23 20 033. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora parliamo di questo pezzo. Mentre il pezzo andava, stavamo ragionando qui a microfono spento. E io ho pensato questo. Innanzitutto, la prima parte sei davanti, parli davanti quasi teatralmente. Gli strumenti sono dietro, volutamente dietro. Poi no, poi si accompagnano, ti superano, poi ritornano indietro. È un pezzo molto complesso, anche se Alessandro ha detto è venuto subito al momento giusto, al primo impatto. Beh, per me è complesso, però come costruzione non è semplice. Ah, dipende di che cosa parli. Io no, parlo sempre di arrangiamento. Parlo anche dell'arrangiamento, però, anche se è venuto al primo colpo. No, diciamo che sono quelle cose che mi sento e che quindi poi quando le faccio lui dà l'approvazione immediata, quindi per questo dico facile, no? Non perché poi ci vogliono tre minuti, però comunque rispetto ad altri che ho fatto, rifatto, messo a posto, rimesso, ho scombinato, è questo qua è uno di quelli che l'idea iniziale, come per Astronave Base, era già funzionale. Esattamente. Poi in questo caso la genesi è stata per lungo tempo prevedeva, ci sono state molte strofe eliminate, ecco. Quindi l'aspetto recitativo che tu hai teatrale che hai evidenziato è assolutamente vero, cioè era un racconto un po' più lungo e mentre mancava l'apertura del ritornello. Poi via c'è stato un ripensamento successivo, ho inserito il ritornello e credo... Sì, Alessandro diceva che l'apertura del ritornello tira molto, piace molto. No, a me piace moltissimo il ritornello, lui intende quello... a me piace quella parte diversa. Io intendevo quello che diceva lui. Quello dove si ferma tutto e ci sono gli archi. Mi piace, ma perché secondo me è proprio un momento commovente. Pathos. Sì, è proprio il momento commovente anche per le parole, ovviamente. Certo. E poi c'è l'apertura del ritornello, che anche quello è molto sul genere melodico pop rock italiano. Mentre l'altra parte, insomma, tu hai diviso le parti, e l'altra parte è più cantautorale alla cantautore bolognese, sì, che forse Francesco Guccini, che conosciamo, ma anche Dalla, ma anche Dalla, ma più Guccinianico, che è molto invettiva questa qua. Secondo me adesso è difficile parlare di altro. No, io Dalla lo sento di più nel ritornello. Perché fai esatto. per quello. Allora, no, come sei capito che siamo di Bologna, vero? No, perché non avevo. No. Non l'abbiamo detto. Tu Sorbole, io non l'ho detto. Non l'hai detto. Ma io non l'ho mica detto. Meno le Ma siete tutti e due di Bologna? Sì, siamo cittadini noi. A proposito di Bologna, qualche ragazzo di Bologna che è venuto qua a trovarci aveva detto questo. A Bologna, dove c'è anche te a microfono spento, non c'è più un locale o pochissimi locali che fanno sentire la musica dal vivo di inediti, no? Le cover, assolutamente per questo. Sì. Come mai, secondo voi? Non so. Sì, che Bologna aveva un'università, c'era l'università ancora, però una volta quell'università aveva un sacco di gente che suonava e un sacco di locali. Adesso io do la mia la tua versione, interpretazione, che poi Alessandro smentirà. Però magari. Posto che, diciamo, gli inediti non è mai che abbiano fatto botte per sentirti, quindi però c'era un po' più fermento. Esatto. Via via, almeno da quello che ho visto io negli anni, c'è stato è entrato il professionismo. Cioè adesso non è che non ci sono gruppi, ci sono molti gruppi molto bravi che ne fanno una sorta di professione e che calcano i palcoscenici più dei locali più richiesti. Cioè è un po' scomparsa la figura del ragazzino di 19 anni, come poteva essere Sergio Limbo da giovane, che prende la sua chitarrina col suo gruppo di amici e vanno a fare serate. Quella dimensione, almeno per quanto vedo io, è un po' scomparsa, ha lasciato più il posto a gente molto più preparata, che però ha il limite, se vogliamo, di presentare solo professionalmente l'ultimo successo che senti in radio o le grandi tribute band, insomma. Ho capito, cioè non esiste ancora le band che fa cosa io dilettante. Mi permetto di contraddirti su una sicuro. Cosa. Allora, prima cosa, secondo me non è vero che sono così bravi. bisogna dirlo, perché non è una questione di bravura, lì è una questione di confezionamento, sì, è una questione che ci sono delle logiche da rispettare. Sì. E allora devi essere ammiccante col pubblico, devi sulle mani e far ballare, sì, devi fare determinate canzoni. Con Fiorello che facevo una volta. Sì, sì, devi un essere... po' tipo dame da crociera. Bravo, esatto. Ecco. Facciamo allora, il balletto. Quindi, sinceramente, io quando sento quella roba lì... cambi canale. Ecco, ho capito. Allora, non è che sono bravi, sono capaci di fare quello che vuole il locale o che vuole la gente, non lo so. Poi c'è un altro aspetto, che secondo me invece è quello fondamentale, che... questi locali che rimangono aperti e fanno questa roba qui sono quelli tutto sommato grossi. Il problema qual è? È che adesso un po' di vari fattori, un po' la crisi, ma vabbè, questa la diciamo sempre, un po' il fatto che per essere in regola bisogna veramente svenarsi, perché il gestore del locale per essere in regola deve avere il locale pieno sempre, e questo cosa fa? Porta a far chiudere i piccoli locali. Un po' che poi dai anche fastidio perché c'è quello sopra che ti sente la musica, perché è zona universitaria, ma ci abita anche della gente. Certo, certo. Il centro di Bologna è purtroppo. E in particolare, io scusate, mi ricordo un concerto che facemmo, chiamati, quindi insomma, e etichettati come gruppo rock, perciò nessuna sorpresa. A metà del primo pezzo arriva il gestore: troppo rumore, troppo rumore. Allora mi giro, cambiamo al volo la scaletta e facciamo un pezzo praticamente solo acustico, quasi senza batteria. Torna il gestore: troppo rumore, troppo rumore. Ragazzi, qui non sappiamo più cosa fare. Provo un pezzo chitarra voce, proprio il massimo del minimo. Torna: troppo rumore. Troppo rumore. Allora scendo, mi metto fuori col cappello e faccio. E infatti il concerto è finito dopo tre pezzi. Questi locali scompaiono oppure non fanno più musica. Quindi di conseguenza c'è meno circolo di anche quello che viene anche presentato. Di idee, esattamente. Com'è la situazione lì da voi a Bologna? Appunto da questo punto di vista. È così, è che comunque c'è per fortuna ancora il nome. Però è rimasto poco altro, sinceramente, perché comunque ci sono ancora dei locali famosi, per fortuna, però sono molto orientati al jazz, sì. Chiamano grossi artisti, vanno anche degli artisti meno grossi, però comunque non è... cioè io che ho, per esempio, l'etichetta sul cantautorale pop rock, non so dove metterli a Bologna. Cioè io quelli che faccio o organizzo degli eventi, cioè prendo la piazza, il teatro, affitto il locale e faccio io, oppure se devo proporlo io a Bologna non so dove proporlo. Ci sono due locali, non facciamo nomi, non si può fare pubblicità. No, puoi farlo se vuoi. Sì. Sono... no, beh, adesso in realtà non so neanche, perché c'è il Bar Wolf forse che fa ancora qualcosa, e forse è l'unico il posto, che dà un pelo di sì. Spazio. E poi c'è il Posto, che è un altro, però non so se lo fa ancora. Al Wolf diversi artisti che sono passati qui hanno suonato, sì. Silvia Falivene, sì, sì. Però anche quello è un locale piccolino. Esatto, non ha la portata del grande locale che chiama quasi esclusivamente i professionisti della musica, ma non i professionisti nel senso quelli bravi, quelli che appunto quelli che ti, come diceva, no, lo so, che ti confezionano uno show, cioè dove sono bravi in quello. Sono bravi in quello, esatto. A scapito, secondo me, è un parere mio ovviamente, della potenziale originalità, e diventano una macchina praticamente, una macchina sì. Professionistica, una macchina di grande valore, però sempre una macchina che consegue determinati schemi. Se io fossi sindaco di Bologna, comunque farei la via. Guarda, fermati qui, farei la via della musica, che potrebbe essere anche via Zamboni, no? Che era la via. Pensavo via Misa. No, via Misa meglio di no. Cioè, una via dove magari non ci sono residenze, ma dove ci sono, che ne so, uffici, sì, certo. Istituzioni che di sera sono chiusi, tu fai anche degli angoli, quando è estate li fai all'aperto, quando è inverno magari fai il localino chiuso e fai una cosa agevolata dal comune magari. Ecco, adesso non entrando proprio nella politica, però comunque culturalmente tu dai lo spazio a agevolazioni economiche a chi mette in piedi certe attività. Una via che comunque è quella, quindi le concentri lì, è una via lunga, grossa, quindi ci stanno tranquillamente 10 situazioni diverse, e secondo me è molto bello dire vado a ascoltare la musica, vado nella via della musica. E paradossalmente, secondo me, scusa, e poi non mi taccio, c'è più, ci sono generi di nicchia magari che hanno più spazio, cioè il genere pop rock, che dovrebbe, sì, insomma, che è un po' più popolare, appunto. Mentre il metal ha i suoi canali e i suoi locali che più o meno resistono, oppure musica alternativa, idem. Stranamente, dico io, musica un po' più di largo consumo fatica a ritagliarsi con uno spazio. È chiaro che... Poi io, visto che parlavi di organizzazione, sempre tu Alessandro, tu organizzi un festival a Bologna, cioè sì, mica com'è che ho letto prima qualcosa che hanno scritto già da Sergio, se l'hanno scritto da me non si può sicuramente, siamo in onda, non si può dire, aspetta che te lo dico, no, comunque è vero, mica pizze fichi, ecco, bravo, okay. Ce la siamo cavata. A proposito, chi ha scritto mica pizze fichi Michele. È Brian Mica Madesi, il mitico bassista delle Dolenti Notte, vedi che vengono fuori, più all'avanguardia della scena mondiale. Poi comunque l'ha cambiata e ha detto: oh ragazzi, non siamo mica qui a spazzare il mare. Si è continuato. Ciao Michele. No, dicevo, Alessandro, tu organizzi, sì, organizzo il Bologna Music Festival, che comunque ha gli stessi problemi dei locali, quindi posso confermare che il termometro, il barometro è quello, cioè comunque difficoltà a trovare il luogo dove ti danno lo spazio, perché si tratta di quello, dove la gente magari va volentieri perché ascolta, cioè comunque è una cosa molto difficile, perché è un festival per emergenti e non per cover band, quindi è un festival dove ascolti della roba originale, ovviamente anche una gara, quindi non ci sono tutti dei geni, cioè c'è anche quello meno bravo. Però è un format straconosciuto che funziona, e secondo me se gli dai il posto giusto nella città giusta può diventare bello. Purtroppo qua poi entriamo nel discorso politico e lascia stare, perché... Ma quanti artisti riuscivi a mettere sul palco? No, noi abbiamo un limite di numero, perché il nostro bando è un pochino diverso dagli altri, non abbiamo un termine di scadenza, tant'è che ci sono delle edizioni che durano 6 mesi e delle altre che durano 2 anni. Perché non ci accontentiamo, cioè diciamo, allora voi mandateci la roba, però se non ci piace, fuori, e non pagate nessuna quota di iscrizione, si è inteso, certo. Cioè tu non ci piaci, fuori, però sai, fuori, dopo un po' non fai dentro, dentro deve sta. Allora se arriva molta gente valida, arriviamo a un certo numero in poco, se arriva poca gente valida noi aspettiamo, quindi il festival può durare 2 anni. E il limite massimo che ci diamo è 100 artisti tra gruppi e solisti, quasi sempre lo raggiungiamo, se non lo raggiungiamo non ci dispiace, andiamo tranquillamente anche con 50, perché poi ovviamente dopo un po' chiudiamo, non è che... però il fulcro è la qualità, cioè quello che ci interessa è che alla fine la finale sia un qualcosa in cui dici potrebbe vincere quello, ma anche quello lì mi piace, ma che non c'è un favorito, diciamo, che ci sia una certa qualità. Finora più o meno ce l'abbiamo fatta, adesso quest'anno è in corso la nuova edizione, quindi... Poi avvisami quando c'è la serata finale. Adesso mi sa che andremo anche qua, quest'anno sicuramente andremo nel 2013, perché Io poi passo a prendere Maurizio e andiamo a fare un giro a Bologna. Va bene, ok. No, adesso non aspettiamo il 2013, ma suoniamo qualcosa. Certo. Suoniamo qualcosa, benissimo. E vi faccio sentire se sei d'accordo. No, non è d'accordo. Una gag simpaticissima. Il pezzo, in sala prove provavamo questo. Sì, per ore ho anche. Il pezzo si intitola Non. È il brano che chiude Spinning Jenny. Doveva essere Non è il brano che chiude. Non è il brano non che è chiude il brano. Spinning Jenny. E, non c'è Alessandro. Non c'è Alessandro, è stata tutta chitarra. Sì. Quindi speriamo fatta bene. Non c'è Alessandro, ma c'è Sergio Limbo. Bravo, bravo, bello questo. Non solo tu puoi capire o no, solo tu puoi perdonare o no, superbia di allora e i sorrisi un po' diversi dell'età e l'assoluta importanza di sé. Solo tu puoi capire o no, solo tu puoi perdonare o no, con tutti gli anni che abbiamo mancato di innocenza e promesse non mantenute. L'imbarazzo e l'arroganza se parlavo con te. Con te, con te, con te. Non credere che saremo mai meglio. Non credere che ci sia un senso più profondo. Come io non credo in te, non credere che lascerai un segno. Solo tu puoi capire o no, solo tu, quei tradimenti che non ti sei mai perdonato e tutto il disprezzo che avrai provato. Quel continuo disgusto che ancora è in me, in me, in me. Non credere che saremo mai meglio. Non credere che ci sia un senso più profondo. Come io non credo in me, non credere che lascerai un segno, non credere che saremo mai meglio, non credere che ci sia un senso più profondo. Come io non credo in me, non credo che lascerò un segno. Beh, è il caso di dire una degna chiusura del disco questo. Decisamente un pezzo molto molto bello, molto interessante, addolcito, colorato, impreziosito anche dal violino di Sebastian Mannuzza, che è un violinista sardo molto bravo, che bravissimo, ha dato un certo tocco non da poco all'ultimo pezzo del disco, vero? Assolutamente, assolutamente, Sergio. Impreziosito è la parola più... Sì, il violino dà un certo... Beh, oltre alla chitarra acustica di Lucio Martelli, mi pare. Sì. No, in questo in pezzo questo caso la suoni te, la suoni te. Ho rubato la scena a Lucio. Hai rubato la scena a Lucio. Cioè, il pezzo è molto interessante. E come hai deciso proprio, hai avuto l'idea di chiudere così il tuo disco con queste sonorità? Sì, praticamente questa canzone viene dopo un pezzo molto più, scusate gioco di parole, scanzonato, sì, che se volete siamo pronti anche dopo a eseguire. Dopo lo facciamo, sì. E, quindi ho voluto fare una sorta di doppia chiusura. Il pezzo scanzonato così è per lasciarsi col sorriso, però poi in realtà dopo il sorriso volevo aggiungere un'ultima nota così, un po' di tristezza. Malinconica. Malinconica. Leggermente malinconica. Leggermente malinconica. Una canzone d'amore. Come anche dice. Se tu giustamente hai detto le canzoni d'amore non fanno parte del tuo repertorio. Poche, pochissime a quelle giuste e basta. Sì, io per esempio scrivendo questa non pensavo a una ragazza, era un discorso più cosmologico. Quindi... <Vabbè. ride> È stato al Cosmo, prof? Sì, da lì no che viene cosmologico. Sì, sì. Sergio, il senso. Il senso. Ah, questa è una domanda che non so se in 5 minuti riesco. Il senso, un brano numero 9 del disco Spinning Jenny, che ha voluto, intorno a cui mi sono chiesto il senso di quello che più o meno facevo. E quindi? Ancora lo devo concludere. Missione incompiuta. Esatto. Il senso. Perché sfugge fra le dita, perché è senza via d'uscita. E allora dammi la sapienza di un bambino e la distanza di una stella. Lascia il buio e cancella ogni partenza. Perché qui non c'è niente che mi appartiene, c'è troppa gente, non vedo bene, è solo un'ombra quella, o sei. Tu prendi questa vita, provaci qualcosa che sia degna di me. Tu brucia quel che sono, prendimi per mano e poi portami via. Forse c'è un momento per spegnere la luce, parlare sottovoce. Dimmi se c'è un senso che superi ogni tempo, che spieghi a cosa servo e mostri ogni sbaglio. Qui non c'è niente che mi appartiene, c'è troppa gente. Quel che sono, prendimi per mano e poi portami via. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, abbiamo trovato questo senso? Stiamo ancora cercando, secondo me. Non è che l'hai messo sotto il mixer? Ah, ecco dove non ho guardato. Ecco, vieni qua da me. Allora, siamo ritornati al Spinning Jenny come disco, insomma, come musica presa proprio dal CD. Questa è una canzone che a metà Sì, più o meno. Abbastanza significativa in effetti anche la posizione, sì. Che infatti abbiamo voluto un po' così a sorta di spartiacque, e il senso è, forse alla fine doveva esserci il punto di domanda, però... C'è la finale di Alex Bello Sguardo anche. Ne abbiamo parlato poco del batterista. Ma qua si è impegnato. Qua si è impegnato, questo è veramente decisamente. Forse le richieste dell'autore erano pressanti. E... Cos'è che ha detto pure lui dopo quando ha sentito? Ah, no, io so cosa ha detto prima. Ale... Possiamo prenderlo benevolmente. Alex è un amico, quindi non... Ale, ascolta, io posso fare così? Oppure anche in questo modo. Ascolta. Però ecco, secondo me è fortissimo. Lo salutiamo. Lo salutiamo. Gran bel lavoro su tutto. Sì. Diciamo. Però ci ha dato dentro anche Lucio con le chitarre. Qua. Vogliamo chitarre, parlare anche di Simone Masina, che ne abbiamo parlato poco. Del basso, perché del basso. È quello strumento che si sente meno, forse per i meno esperti. Però qua ci ha fatto dei lavori su che tutto mamma mia, il lavoro. No, sì. Simone. Un virtuoso, ma del resto dai, il meno bravo è il cantante alla fine, ecco, alla fine, fine siamo sempre là. Allora sì. Sembra una battuta, ma è assolutamente così. Però il cantante, appunto, col discorso che si faceva, essendo cantautore, può fare quel che vuole, tiro fuori. Senti, beh, insomma, abbiamo ancora una decina di minuti, poi più o meno, insomma, ci fai ascoltare ancora una canzone da via, poi torneremo a Spinning Jenny e poi ci salutiamo con l'ultima canzone. Benissimo, va bene? Vi faccio sentire un pezzo tratto da Questione di Stile del 2004. Si intitola Gulliver ed è anche un omaggio al mio retaggio gucciniano. Mm-hmm, certo. E la eseguirà questa volta piano solo il maestro Maiani. Mm-hmm, ahimè. E scusa il fior poco. Di presentazione. Mamma mia. quasi la eseguo bene. Ma è uno dei tuoi viaggi questo? Bah, sì. Questo a Padova, cioè questo esatto, un gran viaggio. Allora, preparati pure quando sei pronto, me lo dici, ok? Allora abbiamo Sergio Limbo con Gulliver. Non si concedono repliche. Non si concedono repliche. Certo, l'errore è stato di poco. Potremmo anche farlo passare per gioco. Certo, l'errore non è stato di tanto, un millimetro appena, e ora saresti contento. Non si concedono repliche. Non si concedono repliche. Con un piccolo trucco saresti migliore. Soli nel tuo giardino a raccontarmi per ore di quell'uomo che ha vinto ed è caduto ferito, o di quella ragazza che aspettava un marito. Anche il nostro Gulliver, sai, è stato sposato, ma sia per rabbia o per natura, per quasi 20 anni l'ha dimenticato. Lascia stare quell'uomo che ora vedi immaturo, anche lui una volta ha avuto un futuro, barattato a giganti e infedeli equipaggi, isole volanti e cavalli saggi. Ma come vedi alla fine, anche lui è ritornato. Guarda il mare, vorrebbe prenderlo e ritornare. Quello che è stato, ma non si concedono repliche. Non non si concedono repliche. Tu come hai risolto l'annoso problema? Trovare qualcosa per cui valga la pena di correre tanto per terra e per mare, pur di avere due spiccioli da raccontare, e ogni giorno svegliarsi alla solita ora, sempre più abbandonare la tua antica persona. Ma non parlo di Gulliver, evidentemente, che più nessuno gli crede e lui non vuole più parlare di niente, che ora fa tanto il saggio, ma è stato anche lui un giovane da poco, con quel suo ambiguo messaggio che ci fa credere e non credere al suo gioco. E ora vorrebbe tornare ad essere solo Lemuel per cavalli e abitanti, ma non si concedono repliche mai, e soprattutto a chi ha sogni giganti. Ne parleremo con lui questa sera, che parlare è un nostro vizio antico, ma ora godiamoci la campagna da sempre, mio dolcissimo amico. Complimenti sinceri, Sergio e Alessandro. Pezzo grazie. Bellissimo. Grazie, molto sentito. Sì, si è visto anche da come lo interpretavi. Anche. Sei entrato... un carissimo amico. Gulliver. Gulliver. Sì. Il mio Gulliver. Mm. Personale. Il tuo Gulliver. Un altro col quale hai rapporto. Che vanno molto al di là. Beh, l'intensità che dava sia il pato, sia con la tastiera, col piano di Alessandro, sia con la... Hai visto come si guardano, Maurizio? Sì, si guardano, sì, perfettamente, basta un momento, uno sguardo e poi... C'è un po' di feeling tra di loro. Assolutamente. E poi cresceva, il pezzo cresceva di non potenza, siamo in TV, forza, facevamo l'occhietto in questo momento. E il pezzo cresceva di forza, di potenza, e si vedeva. Poi, giustamente, alla fine è calato, perché doveva essere così. Doveva chiudere in questa maniera. Sì. Allora, io ritornerei ancora al disco, poi torniamo in studio e ci salutiamo. L'altra notte. Un'altra notte, sì. E... canzone notturna, nelle atmosfere. Ci siamo adesso. Ci siamo, quindi ci siamo qui. Adattissima, direi. E... diciamo con un briciolo di nostalgia su i bei tempi andati. Sì. E quando si era un po' più spensierati, forse. Ma si può ritornare ad esserlo. Se dici. Bravo, Alessandro. Sì. Va bene, allora ci impegneremo. Sì, sì. Ascoltiamo, questa com'è nata, com'è questa canzone? Questa è nata, ha una genesi un po' diversa, era nato prima questo giro di chitarra, che così strimpellando un po', e poi era da un po' di tempo che avevo qualche frase, qualche idea di scrivere qualcosa del genere in testa. Quando è partito il giro di chitarra, dopo... si sono sposate le due cose e dopo è stata abbastanza semplice come genesi, insomma. Ok, ascoltiamo. Qua è notte ma la luna non lo sa, ed io non so dove sei. Se ti sei perso nella tua periferia, amico mio vai via, amico mio vai. Sarà che non abbiamo più l'età per essere gli eroi, ma ricordo un tempo in cui eravamo noi e una fotografia prima di andare. Se devi andare, quelle parole trascorse fra di noi e le promesse a chi le racconterai. Hai mai perduto un sorriso? Dove hai nascosto il passato? Tutto il tuo passato, del gioco delle sere, del fumo di parole ferite da guarire. Davvero non vuoi bere? Tutto questo dove è andato? Dove è andato tutto quello che sei stato? Cosa resterà dei nostri sogni e di noi? Qualche parola persa, un po' di nostalgia, una canzone scritta un giorno a casa tua e un'altra notte che scivola. Radio Sera. Blu Radio Sera. Realizzare un CD è frutto della collaborazione di molti professionisti e diverse competenze. Per questo il primo ringraziamento va ai musicisti, artisti le cui doti sono talmente evidenti che non richiedono ulteriori commenti, al fonico e a tutto lo staff della AM Production. In modo particolare ringrazio Alessandro Maiani, che ha curato e diretto ogni brano con precisione e cura sartoriale e grande esperienza. Se il CD ha qualche merito è principalmente grazie a loro. Un saluto agli amici, tanti e importanti, che hanno in gran parte ispirato più o meno consapevolmente le canzoni. Infine, un pensiero alla mia famiglia, mia moglie e mio figlio. Ma di certe cose il tacere è bello. Sergio Limbo. Giusto? Proprio così. Fra gli amici anche il pezzo che abbiamo appena sentito, Un'altra notte, dedicata a un amico, quindi insomma. Ti sei veramente dato spazio alle tue cerchie d'amicizia, insomma. Fine, se vuoi scrivere qualcosa scavandoti un po' dentro, certo, il mondo di riferimento è quello. Quindi in conclusione è molto autobiografico su questo disco. Sicuramente, cioè qui c'è dentro c'è Sergio Limbo, insomma. Dentro c'è veramente. E qua dentro, in questo pezzo, c'è la sezione ritmica e dobbiamo salutare, dobbiamo ringraziare un'altra volta, perché la batteria e il basso fanno un lavoro incredibile in questo pezzo. Questo è Alex, infatti, bello sguardo, è il bassista, non mi ricordo come si chiama. Simone fanno un lavoro veramente straordinario. Sì, cari ascoltatori, voi sapete che Sergio Lindo ha fatto ammattire il batterista in questo pezzo. Assolutamente lo ha fatto ammattire. Sì, sì, sei d'accordo, Alex? Ah sì, però ha dato la colpa a me il batterista, perché sono io che gli ho fatto la batteria che lui ha dovuto copiare, quindi ha detto... Perché ci sono cambi di ritmo, appunto, e ma tanti cambi, passa da atmosfere più notturne a rock. Esattamente. Questa è una risposta, a Un'altra notte, a una canzone che, questa è, come dicevo, è dedicata a un caro amico, ed è una risposta a una canzone che si chiamava Notte, scritta molti anni fa, e ne volevo mantenere un po' lo spirito rockettaro. Bene, quindi... Qui Alex ci ha dato dentro. Senti Sergio, se qualcuno volesse acquistare il tuo disco, dove deve rivolgersi ad Alessandro? Deve rivolgersi ad Alessandro, io non so, non vedo una lira. Vabbè, il disco allora è acquistabile, purtroppo non in tutti i negozi, come si dice di solito. Ed è un peccato, non si capisce perché. Vabbè. No, è acquistabile sul sito, tramite il sito di Sergio, che è sergiolimbo.it, o tramite il sito dell'etichetta, che è amproductions.it, esatto. E in entrambi i casi è possibile arrivare alla pagina da cui ordinare il CD in formato fisico, quindi farselo spedire a casa pagando contrassegno o tramite PayPal e tutti i sistemi online. Oppure c'è il download digitale, che adesso sta prendendo un po' piede, quindi ci sono iTunes. Le piattaforme iTunes o Amazon o tutte le altre, dovremmo dirne 60, quindi non le diciamo tutte, però lì insomma si trova in formato digitale, quindi si scarica l'MP3 legalmente e costa un po' meno perché non è confezionato, dipende che uso se ne fa. A me piace ancora più il CD. Sei un feticista. Sì, mi sì. Piace la copertina, l'odore. Anch'io. Della stampa. Più ancora mi piacerebbe il 33 giri. Quello anche, sì. La vecchia gloriosa musica si sentiva da là, insomma. Se volete potete anche andare sulla pagina Sergio Limbo di Facebook e mettere un bel mi piace. Sergio Limbo, scritto tutto attaccato. Sergio Limbo, con una sola O, Sergio Limbo. Ma ci sei anche tu però, Alessandro, vero? Dove? Su Facebook. Sì. In diverse vesti. Ci sei anche come etichetta? Sì, come etichetta, come festival, quindi, come band, come artisti. Sì. Quindi se qualcuno volesse contattarti per qualsiasi motivo. Sì, ogni artista ha la sua pagina, poi c'è la pagina dell'etichetta, quindi AM Production, sempre tutto attaccato, poi c'è anche la mia personale, Alessandro Maiani. Quindi ci sono tutte le possibilità che volete per contattare. Non avete scuse, se vi è piaciuto non avete scuse. Loro vi aspettano. Sì. Allora, Maurizio, chiudiamo qui. Sì, certamente, è stata una bella cavalcata, una cavalcata ottimale, con un cantautore, ripeto, atipico, perché i pezzi che canta Sergio Limbo non sono i soliti pezzi da cantautore, sono un po' riveduti e corretti, con la sua ironia, che a volte è abbastanza malinconica, possiamo dire, tutto sommato. È giusto? È giusto, ritrovo pienamente. Allora, Sergio, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi di avermi invitato, grazie davvero. Grazie anche ad Alessandro. Ci mancherebbe, è stato un piacere. Per la nostra grande amicizia, Alessandro, possiamo dirlo, vero? Certo. Che abbiamo. Hai visto, abbiamo un rapporto. Un po', un che po' speciale. Anche tu. Va bene, io vi do appuntamento a martedì prossimo con... Non lo sai? Lunedì mi pare anche. Con lunedì? No. Martedì. Sì, e poi già vi avviso che giovedì della settimana prossima non ci sarà live, ma ci sarà Agostino. Uno speciale tuo? Sì, mio personale. Tuo personale. Ma non è uno speciale di un artista, ma insomma la musica che preferisco, che prediligo, che amo, insomma. Quindi niente live, ma c'è Agostino che comunque vi regalerà, spero almeno, delle emozioni in musica. Ovviamente non cambiate canale, continuate a seguire i programmi di Blu Radio Veneto, che continuano ovviamente sempre su queste frequenze, vi ricordo 88.700 e 94.600 MHz. Buonanotte a tutti, però prima di salutarvi, cosa ci fate ascoltare? Direi un brano che va a fagiolo, perché si chiama Buonanotte ai suonatori. Esattamente. Pensavo si chiamasse Borlotto. Allora, ciao Maurizio. Ciao Agostino e grazie dell'ascolto a tutti i nostri ascoltatori. Di nuovo grazie ad Alessandro e a Sergio Limbo. Giunti a questo punto non vorrei dimenticare tutti quelli che hanno fatto parte dello show. Truccatori, ballerine, tecnici di luce, fonici, montatori, addetti al mixer, i tecnici di palco, i musicisti, tutti gran professionisti. Mio nipote di 6 anni che mi scrive i testi, senza non ce l'avrei fatta, siamo onesti. E poi voi che siete i miei eroi, voi che avete tutti i miei CD e li ascoltate, la mia autobiografia c'ha le copie già esaurite. Voi, lo dico solo a voi, grazie del successo, grazie del successo, grazie del successo. Sembra incredibile a pensarci adesso. Grazie a questa piccola etichetta indipendente, fra le tante certamente la migliore, ma non vorrei dare l'impressione di snobbare la grande distribuzione. Buonanotte ancora a tutti questi bravi musicisti tristi, perché il concerto è alla fine. Non preoccupatevi, il nuovo tour mondiale ricomincerà ad aprile. Buonanotte ai suonatori, agli spettatori, purtroppo non c'è tempo per citare tutti i nomi. Lo spettacolo finisce adesso, quindi mi ripeto, no, ci tengo, insisto, grazie del successo, grazie del successo, grazie del successo. Sì, sì, gli autografi li firmo adesso. Grazie del successo, grazie del successo, grazie del successo. Non mi ha cambiato, sono rimasto lo stesso. E grazie ai DJ che abbiamo qui vicino, cioè Maurizio ed Agostino. E buonanotte. E grazie.